Filmbusters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Man River. Sì, anche, dai, via. Benvenuti, 30.000! Sì, vabbè, dai, ormai mancano pochissime visite alle 30.000 visualizzazioni, siamo a meno 9, quindi probabilmente durante la registrazione festeggeremo e stapperemo lo spumante buono. Siamo arrivati al 20° episodio di Filmbusters, il primo della nuova stagione, dato che ieri 7 gennaio abbiamo compiuto 6 mesi e siamo ancora qua. Ricordiamo che Cineplegi ci durò 4 mesi? 5? 2? 2? Minchia, 2 mesi. Va come bene. Quindi solo tu, davvero? Sì, non finì l'estate neanche. Quindi, vabbè, quindi sì, insomma, è record, era record già da un pezzo. In barba Darkman, che se la sta tirando da mesi, ci manda le mail. Adesso basterà i sabotaggi. Sì, probabilmente. In ogni caso, io sono Alex Diro, con me li avete già sentiti, ci sono Intrinseco. Ciao! E il Monco. Ciao, e ricordiamoci che oggi è l'8 gennaio, volevate silenziarmi, invece sì, oggi è l'8 gennaio e lasciamo entrare Ascanio, ecco. Va bene. Questa tagliala dopo. Questa la elimino, la silenzio. Allora, come ogni altro blog, sito di cinema, rivista di cinema, ma anche di cucina, è tempo di bilanci, è entrato l'anno nuovo, il 2013. Bilancia, il segno della bilancia. Quindi mi hai fatto perdere il filo del discorso, no, dicevo... Quindi parleremo di questo 2012 cinematografico. Abbiamo già fatto un bilancio a metà anno, però diciamo che all'epoca non fu esattamente positivo perché non erano ancora usciti i grossi calibri dell'anno. Ma oltre a questo bilancio parleremo anche di un paio di film che sono usciti in sala in questi primi giorni del nuovo anno. E faccio riferimento a Cloud Atlas, di cui il Monco ha scritto la recensione, che è stata pubblicata oggi stesso, stanotte, e The Master, che non ho visto per cause distributive abbastanza ridicole, visto che la sala più vicina che lo proietta è a 150 km, e quindi non mi va di andare fin lì. Ma i problemi distributivi saranno un leitmotiv della serata, quindi non approfondiamo ulteriormente. E ce ne parlerà inizialmente Intrinseco, che l'ha recensito per noi sulle pagine del blog, ma sarà un dibattito visto che l'ha visto anche il Monco. L'avete visto insieme, vero? E certo. A lume di Candelo. A Varese, che per noi è a 50 km di distanza più o meno, quindi. Però non so. Che noi abbiamo dovuto viaggiare un po' per vederlo. Ma Varese è un po' un'isola felice per quanto riguarda le magagne distributive. Sì, sono tre sale di un gruppo che non so, si chiama Film Studio 90, e mettono quasi tutto quello che passa nei festival e che poi non esce nel resto del paese. Ho capito. È lontano, ma sì, è una bella cosa. Beh, comunque è una fortuna, 50 km alla fine quanto ci mettete? Mezz'ora di macchina? Sì, resta allora, poco. Dai, ci metto mezz'ora io per arrivare alla multisala della mia città, quindi figurati. La Madonna. Allora, direi quindi di iniziare con un breve commento su Cloud Atlas, che uscirà nei nostri cinema il 10 gennaio, e quindi Monco, parlacene brevemente. Brevissimamente, anche perché... Sì, il film tiene già troppo spazio di sé, poi il commento è poco. Vi ricordate il trailer, no? Quant'era? 5-6 ore già il trailer. 5 minuti buoni di trailer, sì. Infatti il film è di 3 ore. Io non so perché mi aspettavo sulle 2:30, invece 3 ore. Allora, sono Vabbè, è basato su un libro che chiunque ha detto, ma no, non si può fare un film di sta roba, perché cioè, ci sono sei storie messe assieme, con un non c'è neanche un vero e proprio filo conduttore tra tutte, c'è un concetto generale che tiene insieme le storie, però in pratica sono sei film a sé, mischiati tutti assieme, con un montaggio pirotecnico, continuano a mettere un pezzo di una storia, poi un pezzo di un'altra, poi un pezzo più lungo di un'altra, poi ritornano alla prima storia, è un casino. Però nonostante tutto non è incomprensibile, perché appunto sono sei storie separate completamente, comprensibili tutte, e tutte hanno abbastanza gambe da reggersi da sole. Per di più sono sei storie che rappresentano ognuna un genere diverso di cinematografico, dal thriller alla fantascienza, al film in costume, vabbè, tutto. Per chi avesse paura delle tre ore, delle sei storie, di tutto questo macello, non è un film pesante, nel senso che ha comunque un buon ritmo per buona parte del film. Poi, vabbè, tende a crollare perché è troppa roba e non è gestita al massimo. In definitiva, non lo so, c'è chi l'ha messo nei peggiori film dell'anno, tra cui la rivista Time, e c'è addirittura chi l'ha messo nelle top 5, top 10, quindi è un film che divide completamente. C'è chi dice che è un capolavoro, c'è chi dice che è una merda. Ovviamente la verità sta nel mezzo, è un filmettino alla fin fine, tutto sto rumore, ma alla fine niente di che. Si lascia guardare, visivamente bello, il tocco dei Wachowski, che adesso sono fratello e sorella, per chi si fosse perso questa cosa, si vede, l'azione c'è, è intrigante sotto certi punti di vista, però finisce per essere schiacciato dalla sua mole. Comunque, se avete tre ore di tempo, dateci anche un'occhiata. Finito. Ok, quindi un commento molto stringato. Tu eri interessato? Ma sì, alla fine penso che lo vedrò, perché fondamentalmente mi hanno fatto vedere 5 minuti di trailer, non voglio che vadano sprecati. E a qualcuno su Twitter era anche piaciuta la tua affermazione di montaggio epilettico. La ragazza Alessandra Costa, che salutiamo con la manina. Ciao Alessandra, mia omonima. Non ci può essere amore fra noi, perché Alessandra non può funzionare, insomma. Beh, non è detto, Dario Argento e Daria Nicolodi. Lo so, ma infatti hai visto che brutta fine che ha fatto l'Argento? quindi, insomma. In tutti i sensi, esatto, soprattutto artistici. Allora, e purtroppo non l'ho potuto inserire nei peggiori Dracula 3D, perché grazie a voi me lo sono risparmiato. Veramente grazie a voi ho risparmiato un sacco di film, quindi vi devo mandare un cesto per Natale prossimo. La busta paga. Esatto. Il merluzzo. Ragazzi, ho visto che Monco ha visto 140 film. Sì. Roba notevole. Solo di quest'anno però hai precisato, perché poi c'era il carissimo Mascali, che salutiamo, che doveva essere un nostro collaboratore. Ex proprio, che quindi ti ha un po' come dire punzecchiato sull'argomento, ma tu hai precisato che sono solo film di quest'anno 140. E beh, mica pochi, sono sulla media di Frusciante, dai. E invece Intrinse quanti ne ha visti di quest'anno? Sì. Tra uscite ufficiali, roba che non è uscita, 139 credo. Però poi ho iniziato a contarli dal 2 luglio io. Ah, beh, cioè, in generale, io di solito non prendo la prima volta che comincio a contare i film quest'anno. In generale sono più o meno sulle stesse cifre, solo che non so, i biglietti li conservo, quindi conto quelli, però la roba, diciamo, vista non ufficialmente, no. Di solito non prendi ordini tu. No. E le ordinazioni, sì. Ma... il nostro caro cameriere. Allora, quindi tra i film che hai visto c'è anche questo The Master di Paul Thomas Anderson, di cui abbiamo anche largamente parlato nell'occasione dell'uscita del primo trailer, eravamo tutti in brodo di giuggiole, e quindi dai, parlacene un po', introduci l'argomento e poi fate un commento, un dialogo tu e il Monco, io mi eclisso. Va bene, sì, eravamo felici, abbiamo visto il trailer, diciamo, lo vedremo al cinema. Quanti avranno fatto lo stesso ragionamento? Invece no. Vabbè, sì, una distribuzione ridicola, tra l'altro. Poi su chi frequenta Twitter, io seguo la Kired, insomma, i vari distributori si vantano. Da oggi nelle sale, vabbè, trovarlo. Comunque, sì, poi non ho guardato, magari intanto che sei in attivo puoi vedere quante sale Sì, contatti, sì, sì. perché non ne ho idea, davvero poche, penso. Vabbè, ma se Quando nessuno abbiamo lo registrato. compra, però. Anche quello è vero. Però, vabbè, insomma, mi sembra che anche in televisione ha avuto una buona campagna marketing. Sì, poi Comunque, sta l'ultima venendo volta. tutto, ci si aspettava un tantino di più. È vero che gli anni scorsi era uguale, perché mi ricordo, che ne so, Faust, ma anche Pietà, in generale, insomma, bisognava galoppare per vederli. Però qui sembra davvero peggio del solito. Beh, quando Reacquista. l'abbiamo registrato l'ultima puntata, c'era programmato in 125 sale. Oggi sono cresciute. Vabbè. 127. Sembrava meno, perché vedevo anche chi vive, che ne so, a Milano, aveva problemi, cioè hanno dovuto fare parecchia strada, strano, sembrava meno, vabbè. Vabbè. E sì, comunque, premiato a Venezia con la Palma d'Argento, che è dove la regia, e per, insomma, i due attori protagonisti, premiati alla pari, Leone, Leone. sì, e anche forse un premio, scusate, il FIPRESCI, non mi ricordo. Un premio secondario, comunque pluripremiato a Venezia, insomma. E, sì, insomma, ci si aspettava anche per questo di trovarlo, non è stato così. Vabbè, e in breve la trama, che tanto è piuttosto essenziale, addirittura secondo molti non c'è, perché non succede nulla, il film non parla di nulla, è noioso e vuoto, poi ne parliamo. E, c'è questo Freddy Quell, interpretato da Joaquin Phoenix, che... Se il film fosse uscito quest'anno sarebbe nella nostra top, almeno nella mia top 5 degli attori, sicuramente in vetta, perché è mostruoso. È un ex, non marine, comunque un marinaio, che torna dal Giappone, si suppone alla fine della seconda guerra mondiale, ma potrebbe essere prima, perché appunto lui è un individuo disturbato che, come molti altri suoi commilitoni, insomma, ha subito i traumi della guerra, come il Vietnam produceva quei freak, la seconda guerra mondiale, in modo più discreto, produceva dei mostri a suo modo. E lui è un concentrato di nevrosi, è un alcolizzato che si produce da solo gli alcolici con la benzina dei missili, lo vediamo rubarla dai missili della nave, comunque recupera tutto quello che c'è di alcolico e produce dei mix letali che beve, che lo riducono a un disastro. Insomma, fugge in continuazione dopo questa guerra e si imbatte, quasi senza rendersene conto, in Lancaster Dodd, che è interpretato dall'altro colosso, Philip Seymour Hoffman, che è il leader di diciamo pure una setta, comunque una congregazione, un culto non proprio religioso, ma quasi, che si chiama La Causa, che si diceva all'epoca, quando insomma, c'erano le prime indiscrezioni, si parlava di un riferimento a Scientology e a Ron Hubbard, insomma, al suo fondatore, all'idea di questo leader carismatico che crea un impero. In realtà poi sì, probabilmente c'è un'analogia, ma a Anderson non frega assolutamente nulla di Scientology e lo dimostra, quindi chiunque fosse andato a vederlo con queste aspettative poi è rimasto, non dico deluso, ma sorpreso, perché è una storia di personaggi, non c'è nessun intento di, insomma, di riferirsi a questa cosa in particolare. E comunque questo Freddy diventa il braccio destro, diciamo, il braccio in tutti i sensi, perché è la forza di questo Lancaster Dodd, che a sua volta cerca di ripulirlo, insomma, eliminare i suoi problemi di alcolismo, di eliminare le sue nevrosi e di renderlo un individuo moderno, perché insomma la causa si occupa principalmente di allontanare l'uomo dalla condizione animale, insomma c'è spesso questo discorso. La modernità, no? Bisogna superare le nevrosi, le malattie, e questo lo fanno attraverso delle specie di sedute di ipnosi in cui si ripercorrono delle vite precedenti che secondo Dodd abbiamo vissuto e che ce ne rendono quello che siamo. Neanche le malattie, le nostre follie dipendono da qualcosa di precedente. E niente, la trama è tutta qui, è un incontro, uno scontro tra due personaggi che sono... non direi proprio per forza gli opposti, perché non, anche tendono a confondersi nel film, a influenzarsi. però è questo, è un incontro, è un due personalità fortissime che cozzano e producono energia, insomma. Mi viene in mente la frase dell'orribile Sherlock Holmes 2, c'è cioè una citazione che è tratta da un film brutto ma si presta bene. Insomma, quando due persone di questa caratura si scontrano succede sempre qualcosa di interessante, insomma. E, oddio, mi sono un po' perso. E, è una... una storia che non ha nulla a che vedere con l'idea delle sette, dei culti religiosi, del potere, dello sfruttare le debolezze. Sì, c'è, perché questo elemento è sullo sfondo, lo vediamo, ma non è importante. L'importante è il contrasto tra un leader, questo maestro, che cerca di domare una bestia, perché di bestia si tratta, nel caso di Phoenix, e senza spoiler, diciamo che non capisce che non può riuscirci, nonostante il suo grande carisma seducente. E, insomma, la storia è tutta qui. Fatico un po' a procedere perché effettivamente è piuttosto elementare come trama. Ricorda leggermente quella del petroliere, che se ricordate, nonostante l'importanza del personaggio, anche lì è una storia di un incontro tra Daniel Plainview e questo Eli o Paul, che poi non è ben chiaro se sia uno sdoppiamento o no. E anche lì la fede è un uomo invece animalesco, come quello interpretato da Daniel Day-Lewis, e ricordano molto questi due personaggi, quelli del petroliere. Insomma, c'è una continuità da questo punto di vista, solo che mentre il petroliere forse dal punto di vista narrativo era più solido, era compatto, era una storia piuttosto semplice, questo è non dico un film visionario, perché non lo è stupendo da vedere, è una visione, però non è enigmatico, visionario, surreale, c'è qualche elemento che si avvicina, va in quella direzione, ma è piuttosto semplice. È un film, mi è venuto in mente mentre scrivevo, disarmonico, sgradevole, perché intanto sgradevole è il protagonista, che sì, pur essendo coprotagonista prende la maggior parte dello spazio, Freddy, e appunto lui è l'emblema di tutte le nevrosi, di tutte queste conseguenze di una guerra, in questo caso magari diversa da quella del Vietnam, ma che comunque sui giovani ha degli effetti disastrosi. Insomma, ancora una volta un'America che non è quella del sogno americano, un'America diversa profondamente, anzi va proprio a demolire la radice del sogno americano, in questi anni nasceva con i petrolieri, i grandi capitalisti e con... insomma la guerra, no? L'America che esce dalla guerra diciamo vittoriosa, tenta di rimettersi insieme, chi tirandosi sulle maniche, chi invece come Dodd speculando in un certo senso sul disastro, sulle rovine di questo grande paese. E insomma, è fin pazzesco, perché ti trovi davanti un Phoenix mostruoso, bellissimo da vedere nella sua orripilanza, perché sembra davvero una persona malata, non so cosa abbia fatto, se ha preso davvero qualcosa, ma è mostruoso, si contorce, si piega, si incurva sulla schiena, prende a pugni, si strappa i vestiti, spacca, distrugge, sogghigna, ha questa specie di paresi dalla parte destra del viso che sembra vera. Qualcuno sul forum diceva, se non sbaglio ha davvero una semiparesi facciale, no, non mi risulta, però è talmente bravo che sembra davvero un problema medico. E poi c'è quello per cui insomma molti di noi andavano a vedere il film, il tocco di Paul Thomas Anderson, che insomma basterebbe da sé, e infatti molti dicono chi se ne frega della storia, il film è uno spettacolo, ed è così. Intanto credo, sospetto che sia stato pesantemente tagliato, perché nei trailer che vediamo, nelle cose che sono state anticipate, c'è un sacco di roba che nel film non c'è. Non so bene come verrà giustificata, se è una scelta sua o della produzione, ma davvero manca molto. Però quello che c'è è spaventoso, è un film matematico, è tutto geometrico, è tutto, c'è un ritornare di linee, di forme, soprattutto nella prima parte. C'è questa scia lasciata dalla nave, i vortici, oppure la scala a chiocciola dell'ospedale in cui Freddy viene ricoverato. E poi c'è sempre... nella recensione parlavo di movimento, no? Freddy è sempre di corsa, sempre in fuga, si muove, corre, quando non corre lui viene fatto correre da Dodd in questi esperimenti psicologici, e quando lui si ferma, e spesso sembra fermarsi proprio quando c'è vicino questo Dodd che calma un po' tutto, anche il film si ferma quasi intorno a lui, però anche in quei casi c'è qualcosa che si muove, c'è sempre qualche movimento che sia interno o esterno alla scena, addirittura esterno come la musica di Greenwood, che è lo stesso di, se non sbaglio, del petroliere. Le musiche ricordano molto quelle del petroliere, ma qui davvero sembrano perfette, sono simili, ma qui sono ancora più adatte. Sono, è un metronomo che scandisce il tempo, anzi quasi scandisce i passi di Freddy, che è sempre galoppante tra campi, stanze, ponti delle navi, spiagge. È davvero splendido. Un po' dispiace perché l'abbiamo visto in una sala che per la seconda volta ha proiettato il film fuori fuoco, pesantemente fuori fuoco anzi, ed è invece insomma, un peccato in tutti i casi, ma in questo in particolare, perché da volte basta semplicemente un primo piano, e ce n'è molti di Phoenix, semplicemente guarda in camera e c'è un gioco di ombre, di luci. Anche i primi piani sono uno spettacolo. Ecco, quell'ultimo primo piano su Phoenix è perfetto, perché vediamo lui ancora una volta l'interpretazione spaventosa, è un ghigno terribile, bellissimo, e insomma, una fotografia pazzesca, una regia fermissima, forse un po' fredda, ma è una storia fredda, è una storia nevrotica, convulsa. È insomma un film di quelli che sono così brutti che sono belli, nel senso buono, cioè la bellezza nella disarmonia, nelle cose tremende. Davvero è iniziato ora l'anno ed è già al top. Io non so chi riuscirà a fare meglio. C'è parecchia roba interessante all'orizzonte, ma non so chi potrà avvicinarsi a livello tecnico e in generale a un colosso del genere, anche solo come interpretazioni, perché penso che partire così ammazzi l'anno cinematografico. Abbiamo due bestie come Phoenix e Hoffman che hanno già messo il dettato legge, e poi c'è un film che magari non è piaciuto a tutti, non è quello che ci si aspettava, però è tecnicamente poderoso. Mi dispiace che non sia possibile vederlo per tutti, perché insomma, ci si perde uno dei migliori film dell'anno, e spero che magari dopo gli Oscar, se vince qualcosa, succederà quello che succede sempre, cioè che viene rimesso in programmazione e magari con qualche sala in più, sempre se succede, come è successo anche a The Artist, insomma. E chiudo qui, vabbè, insomma, ne parliamo. Okay? Va bene. Ma non ho capito, tutti a dire bravo, Phoenix di qui e di là, si è fatto questa semiparesi alla parte destra del volto. E allora Nicolas Cage si era fatto anche alla sinistra, è proprio una paresi totale, lui è doppiamente bravo. Allora. Anche una paresi della carriera, sì, è tutto paralizzato, ma rende l'ingiustizia, sì. Sì, una presa della carriera, eppure ne fa 3 all'anno, non capisco come fa. Non si ferma. Sì, allora, sì, a proposito di Oscar, penso che pochi riusciranno a vederlo al cinema, perché, non lo so, mi dà l'effetto Tree of Life dell'anno scorso. È evidentemente il migliore in circolazione, ma difficilmente viene premiato a Hollywood un film del genere. Forse Tree of Life ancora di più, questo avrà qualche chance in più, però la vedo dura. Qualcosa prenderà di sicuro, attori di sicuro, però insomma, vabbè, comunque. Ma aspetta, mica hai detto, perché Phoenix ha sentito cosa ha detto agli Oscar, che sono una merda, ha fatto le scenate, ha proprio insultato pesantemente l'Academy. Io mi sono perso il primo pezzo, di chi parlavi? Di Phoenix, che ha parlato malissimo agli Oscar, ha proprio usato parolacce per descriverli. E anche poi c'è Daniel Day-Lewis anche. No, infatti, anche per quello la vedo dura. Nonostante sia sto popolo di film. Come fai a dire, cioè, scusa ti interrompo, visto che il discorso è quello, come faranno a dire chi è il protagonista e chi no? Cioè, per me è Phoenix perché spicca tra i due, ma sono egualmente presenti e non saprei dire chi candiderei come protagonista, come coprotagonista. A Venezia infatti l'hanno premiata insieme. Probabile entrambi, visto che quest'anno DiCaprio non possono nominarlo tra i protagonisti. E quindi lo buttano tra i coprotagonisti, se vogliono. Se vogliono ancora una volta lasciarlo a bocca asciutta. Beh, quello significherebbe proprio metterci una pietra tombale sulla vittoria dell'uno o dell'altro, perché di solito quando ci sono due candidature dello stesso film, i voti si smezzano, ecco. Sì, ma comunque pensando a chi vota, cioè la gente lì, truccatori, attori, registi di Hollywood, non vincerà nulla. Non so, non è il tipo di film da Oscar. Purtroppo c'è già la moglie di Cameron, come cavolo si chiama? La Ma che, no, non la Catherine Bigelow. Che piazza un altro film sulla guerra. Aia, insomma. Fa già man bassa quella. Poi l'unica donna ad Hollywood. L'unica donna a Hollywood fa film da uomini. E che ciarcazzo. No, vabbè. Esatto. Vabbè, parliamo di sto The Master. Come avevo scritto, vabbè, altrove, il mio giudizio finale sul film si riassume in una frase che ho letto su un giornale o canadese o americano. Cioè, un film per cui provi tantissima ammirazione, perché tecnicamente è stupendo, è una delle cose più belle, insieme a Tree of Life, lo ricito, degli ultimi anni. Strepitoso, ancora più ammirazione io la provo per Paul Thomas Anderson, che è uno dei registi viventi tra i miei preferiti, soprattutto perché è uno che non ha studiato cinema, cioè questo si è fatto da solo, quindi se riesce a fare delle robe del genere è incredibile. Tantissima ammirazione sia per il regista, per il film, che è, come ho detto, poderoso, per gli attori, per tutto, però difficilmente riesce a provare amore per un film del genere. Quindi è difficile che entri tra i tuoi preferiti, non so, per intrinseco sì, io parlo per me e per magari altri che hanno avuto questa opinione, è difficile perché ti senti quasi in soggezione davanti a una cosa del genere, prima di tutto per la sua grandiosità, perché sì, come ho già detto, registicamente è strepitoso, e dall'altra parte ti senti... come fai a amare una storia, anzi un film che non è un film, non c'è la narrazione, nel senso non è che non c'è, non gli serve, come hai detto intrinseco è un incontro, anzi è uno scontro tra due personalità, è tutto lì il film, quindi è veramente il più ostico di Paul Thomas Anderson, perché gli altri bene o male potevano non piacere, potevano... però insomma la storia c'era e a qualcuno poteva piacere la storia, forse quello che gli va più vicino come osticità si dice, osteria, sì, osteria, osteria, sì. Osteria. Osteoporosi anche, sì. Era Magnolia, anche osteopata, era Magnolia, però lì insomma erano tanti personaggi ma anche tanta storia, tanta trama, però appunto è meraviglioso, e questo basta, fa niente, è talmente bello che però non riesci a amarlo, tutto qui, mi sto ripetendo perché comunque sono queste le cose. Sì, anch'io ho amato la regia, che passa da quelle inquadrature meravigliose sulla nave, quella sì, portaerea, ecco, quella roba lì, quella nave meravigliosa, quelle inquadrature dall'alto che... non penso che l'abbia voluto Paul Thomas Anderson, mi hanno ricordato La corazzata Potemkin, sono alcune riprese identiche, e come me la tiro. e poi anche quelle inquadrature asfissianti attaccate ai protagonisti, per esempio sono tutte quelle, come dicevi anche te, quel gioco di ombre eccetera, ma quelle inquadrature dal basso mentre c'è l'interrogatorio, il primo e poi anche altri, inquadrano il labbro leporino e quella semiparese che ha Phoenix, e nonostante siano dei difetti, perché appunto è un personaggio disgustoso da guardare, e sia il volto sia tutto, è veramente disgustoso, però sono dei punti di forza e li valorizzano, e è meraviglioso. Nessuno ha mai inquadrato Phoenix così, perché hai sempre paura. Come fai a inquadrare uno con quel labbro? Non lo fai, cerchi di aggirarlo. Invece lui no, pam, andiamo direttamente su lì, benissimo. E poi appunto questi personaggi scritti benissimo, c'è chi dice che non c'è abbastanza approfondimento psicologico. Più di così, cosa volete? Non c'è negli altri personaggi, ma chi se ne frega? Non è un film degli altri personaggi, è un film con due personaggi e basta. Il resto... a parte il personaggio di Amy Adams, potrebbero anche non esserci, non hanno assolutamente importanza, sarebbe una stanza con loro due, finito, quello è il film. Bellissimo il personaggio di Phoenix, bellissimo quanto disgustoso, questo reduce, questo raietto. fatto un essere che, anche se non avesse fatto la guerra, sarebbe quel tipo di persona, perché è vissuto senza il padre, con una madre in ospedale psichiatrico, con la zia ninfomane che lo ha iniziato ai piaceri della carne, e incontra Dodd, che è praticamente la figura paterna che lui cerca fin dall'infanzia, e Dodd è un po' il Berlusconi della situazione, è identico. Ah, tra l'altro Berlusconi poteva essere in questo programma, visto che è in tutti, ma vabbè. Non è voluto venire proprio. È vero. Ha detto, guarda, voi siete sotto le 30.000 visite, non posso venire, e invece l'abbiamo superata, caro Berlusca. A Berlusconi 30.000 visite e una, quindi ragazzi festeggiamo. E richiamalo, che magari entro fine puntata, magari due domande su Robinho e Pato le riusciamo a fare. Poi gli faccio uno squillo, vedo se me lo rifà. D'accordo, perfetto. E è come Berlusconi perché prima di tutto ha fatto qualsiasi lavoro. Lui è il presidente operaio, invece in questo caso è il maestro che ha fatto... È romanziere, è saggista, è chimico o fisico, dice anche una cosa di questo genere. È un pastore. Fisico nucleare addirittura. Ah già, sì, esatto, fisico nucleare. Che alla fine, adesso non mi ricordo bene, ma questo è molto simile a Hubbard come figura. Anche Hubbard era uno che, secondo lui, faceva qualsiasi cosa. Poi... Era un romanziere prima di tutto, da lì poi è diventato... Sì, quindi appunto. Sì, c'è un'analogia. Come Dodd, parti da un lavoro, poi lui faceva qualsiasi cosa, secondo lui, poi evidentemente non sapeva fare nulla. Neanche... Ma sai qualcos'altro? C'era anche quel discorso degli alieni, delle vite precedenti, delle cose assorbite... Cioè, un po' alla base di Scientology c'è un leggero riferimento, sì. Sì, è evidente che lui non voleva fare il film su Scientology, cioè fare un film su quei due personaggi. Il caso vuole che uno dei due sia vagamente ispirato a quelli di Scientology, però persino quelli di Scientology mi sembra che non gliene fregato niente del film. Non sono riusciti a vederlo tutto. No, non ce la facciamo. Tom Cruise però l'aveva visto forse, che è amico di Paul Thomas Anderson, ha detto vabbè dai, te lo lascio passare. Ma scusa, che poi Tom Cruise non ha abbandonato Scientology? No, no. La moglie. Ah, vabbè. Okay. Figurati lui. No, era per dire che lo standard di chi aderisce a queste cose non riesce a digerire un film sopra l'ora e mezza, per cui comunque non c'era pericolo. Ah, e poi anche questo, si vede dove queste sette, anche se non è proprio una setta, questa la causa, dove vanno a attecchire, dove vanno a prendere proseliti, cioè tra gli ex reduci, tra i reietti della società, tra i deboli, tra quelli che riesce a convincere più facilmente, come il personaggio di Laura Dern, che era Laura Dern, sì, adesso sì. Mi confondo, che nonostante... si accorga chiaramente in una scena che lui non si ricorda neanche le cose che scrive e dice, gli sta lì comunque a leccargli il culo. Sono questo tipo di persone, che stranamente sono anche le stesse del PDL, vabbè. e anche se non funzionasse, se non sono persone così deboli, entra in gioco il processo, quei giochi di psicologici che gli fai fare. Phoenix è talmente stupido che non gli è, cioè è talmente stupido che alla fine non riesce a essere imbrigliato, però usano tutti questi metodi per fregarti. Vabbè, concludendo, anche le musiche, sì, meravigliose. Greenwood, hai detto? Sì, non mi sono documentato, sì, bellissime. Anche qui ho letto che qualcuno si lamentava che sono troppo invasive. Eh no, è proprio quello il bello, sono talmente fastidiose, nervose, che sono perfette. Quando ci sono quei primi piani e sotto continua a battere come un metronomo, appunto, è perfetto, ti sale sempre di più uno stato di angoscia, da fastidio, è meraviglioso. Credo che mi scarico, no, non mi scarico, mi compro quella colonna sonora. E in definitiva... come ho detto all'inizio, piena ammirazione ma poco amore. Mi è piaciuto, chiaramente uno dei migliori di questo 2013 appena iniziato, poi speriamo ci sia anche di meglio. Però, niente, come diceva il Donzelli, è un film di testa più che di panza, qui andrebbe rivisto di sicuro un paio di volte ancora. per amarlo ancora di più. Per adesso sì, bello, non è il mio preferito di Paul Thomas Anderson, ma bello, bello, bravo Paul. Ok, allora direi di passare alle nostre nominations per l'anno 2012, a meno che Intrinseco non ha qualcos'altro da dire. No, è stupendo, basta, abbiamo detto abbastanza. Guardatelo, anzi no, non potete. Sì. Aspettate, okay. Il DVD. Vorrei consigliarvi sì, un certo. Modo piratesco di vederlo, ma anche così è difficile, no? Purtroppo è un crimine, ma è così. Che poi dovrebbe anche essere più semplice, perché comunque il film negli Stati Uniti da quando è uscito? No, un po'. No, non penso, da tantissimo. Guarda che ti sei sbagliato tu, eh? Sì? Quest'estate penso... addirittura? No. No, beh, dopo Venezia. Poco dopo Venezia, comunque. Ah, io volevo dire una cosa, me ne sono dimenticato, che non ha a che vedere col film. Comunque, su Twitter, io sui social network mi imbatto sempre nelle celebrità, tra virgolette, poi ci litigo. E questa volta era successo per The Master, sono su Twitter e ho beccato l'account di Matteo Bordone, uno che noi ammiriamo molto, di Filmbuster, e lui parla molto male di questo film. Ha usato una simpaticissima analogia, che è interessante come l'influenza di uno che abita fuori Grenoble, una roba del genere. Io gli ho detto... non so cosa gli ho risposto. Comunque, una delle varie risposte è stata: aspetta, ma tu sei Matteo Bordone, quello che parlava di shame alle invasioni barbari, che sto ancora ridendo. E lui, anche da grande intellettuale qual è, mi ha dato dello sfigato, perché gli sfigati su internet vanno a non solo ridono in faccia, ma te lo vengono a dire. E io lì volevo dirgli: vabbè, certo, ti ridi in faccia, te lo vengo a dire, è giusto che tu lo sappia. Ero a casa, non mi hai visto, e niente, quindi, ha risposto così. E poi non pago, mi ha bloccato. Uh-huh. Impedendomi di rispondere, e mi rispondeva lui, diceva: fai lo spiritoso. Però io non potevo rispondergli. Comunque la critica sua e di tanti altri burini è la stessa: non succede nulla, non è interessante, è noioso. Va bene, mi chiedo che film abbiano visto, specie lui che è un critico. Poi ciao Bordone. In effetti hai ragione, ma non è quello il punto, non è importante che succeda qualcosa. Però vabbè, evidentemente non è successo nulla nella sua testa mentre lo vedeva. Ha studiato cinema, Bordone. Chi altro ci ha dato degli sfigati? Albarese? Sì, sempre a me, una roba del genere, sì. Non mi ricordo l'aggettivo. Vabbè, dai, ormai siamo lanciatissimi con gli insulti. E vabbè, allora, visto che il Monco si è offerto di condurre la parte relativa agli Oscar di Filmbusters, giustamente, gli Oscar Filmbusters, ovviamente, cedo lo scettro della conduzione al mio collega e io farò il suo ruolo, insomma, faccio quello che disturba a bassa voce. Dai. Il mastino dei film Baskerville, questo. Sì, esatto. va bene, non ve ne siete accorti, ma siamo già nel 2013, da 8 giorni, e quindi abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, anche di più, e facciamo le nostre top e flop del 2012 appena concluso. Abbiamo scelto 9 categorie che vanno dal miglior film al peggior film, dagli attori, attrici, regie, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non decreteremo i migliori in questi campi, semplicemente abbiamo fatto una mini lista personale dei nostri preferiti, anche perché è difficile alla fin fine proprio dire chi è il migliore in qualcosa. Però da queste nostre scelte ne uscirà una definitiva, una listina da 10, da 6, poi dipende, che troverete sul blog e potrete votare voi, cioè voi, pensate un po', ma quanta importanza vi diamo? Voi deciderete qual è il più bel film secondo Filmbusters. Beh, ovviamente saranno pilotati i sondaggi. No. E, potete votare appena questa puntata sarà in download, insomma, diamo un po' di tempo. Prima di lanciarsi nelle nomination, facciamo un discorso generale prima su questo 2012, come è stato, no? Sì. Chi vuole iniziare? Dai. Vabbè, dai. Io dico, o tu o lui che non ha ancora parlato. Inizio, dai, così me la levo subito. Vai, vai. No, ho fatto solo un discorso di tre nazionalità, così. Allora, prima di tutto gli Stati Uniti, che devo dire che sembra che hanno preso un anno sabbatico, non lo so, guardando tra i film preferiti, tra quelli che mi sono piaciuti di più, c'è poco di americano, poi vedremo dopo. Sembra quasi che quest'anno l'hanno dedicato totalmente ai blockbuster. C'è stato, è l'anno di Batman, della chiusura di Batman, è stato l'anno della rinascita di Spider-Man, poi c'è stato Prometheus, poi c'è stato L'Hobbit, un continuo. Sembra che hanno volutamente dedicato un anno a questi e i film magari più belli, vabbè, sulla carta, hanno aspettato, quindi da un certo punto di vista non vedo l'ora di vedere il 2013, perché già da questi dalle prossime settimane, non so, arriva Django, già c'è The Master, ma anche Cloud Atlas alla fin fine, va bene, sarà un grandissimo anno, però non so, mi sembra che sono stati un po' al palo quest'anno gli americani, questa è una mia sensazione. Poi regina incontrastata del 2012 è stata la Francia, non so, ha tirato fuori il filmone, quello che entrerà dalla porta, credo, principale della storia, sì, del cinema. Ma anche nelle nomination di Filmbuster, sicuramente. Ecco, e avete già capito, e quindi lo diremo dopo, ha tirato fuori la commedia dell'anno, che è Quasi Amici, e poi ha tirato fuori tantissimi film di grandissimo valore, da Piccole bugie tra amici... cazzo, dai, che mi ero preparato la lista. Sapore di ruggine e ossa. Anche. Sapore di ruggine e ossa, anche quello bellissimo. Poi lo so, 17 ragazze, Police. Qualcuno non li troverà magari così belli, però sono tutti di una produzione qualitativamente enorme. Non lo so, stravinto quest'anno, anche perché l'America ha preso sta pausa, però ammazza. C'è un'invidia per sti francesi che... Senza che poi ci ripetiamo, perché alla fine direi più o meno le stesse cose tue, per darvi più o meno la misura di quello che hai detto te, che appoggio completamente, nella mia top 5 l'unico film americano è del 2011 per loro, nel senso, è stato distribuito da noi nel 2012, quindi rientra nel regolamento che abbiamo stilato per realizzare queste nominations, però effettivamente è un film del 2011. Ho già capito quale, però io. No, non l'avete, mi sa che non è una sorpresa. Ah, vabbè, è l'alternativo, sì. Vabbè. E non solo la Francia produce tantissimi film di ottimo livello, ma prima di tutto esporta registi. L'America, vabbè, già Aznavicius si è portato a casa tantissimi Oscar, ma anche Quentin Dupieux e altri. E porta tantissimi registi a casa, per esempio Haneke va a fare film da anni in Francia, Michael Leanu è già al secondo film, che magari non fa in Francia, però sono produzioni francesi, e poi mettono lo zampino in qualsiasi film, io, vabbè, sarà un caso, ma quasi in tutti i film c'è qualcosa di francese, è terribile, sono come il prezzemolo, e appunto c'è tantissima invidia, perché, e questo e concludo con l'Italia, è l'ennesimo anno dell'Italia che è difficile da capire. Da una parte c'è la solita merda, che è tantissima, che sono tutte quelle commediole inutili che però guadagnano sempre tantissimo, non si capisce perché. E dall'altra c'è ancora la più merda, di cui parleremo, la mia flop 5 credo che sia quasi tutta italiana. E poi, stranamente, per quello che è un anno indecifrabile, è uno dei migliori anni dell'ultimo decennio, perché sono usciti almeno 10 film di grandissimo valore. Poi sì, magari qualcuno l'avrà messo nella top 10, nella top 5, eccetera. Ieri mi mettevo lì a contare, sì, sono almeno 10 di grandissimo valore. Quindi, cioè, dalla merda totale a degli ottimi film, addirittura i migliori del decennio. Indecifrabile Italia, vabbè. La mia memoria annuale è sempre pessima, però mi sembra che questo 2012 sia stato un gradino più in basso del 2011. Poi vado a vedere la lista e dico, ah no, avevo torto. Però così, a sensazione, mi sembra un gradino minore. Ciò non vuol dire che sia stato un anno brutto, c'è stata tantissima bella roba. così concludo. Va Intrinsic. Velocemente, anche se sì, piuttosto che ribadire, io un film americano ce l'ho, però è abbastanza anomalo. Però sì, è vero anche per me, ho scelto tutta roba che anche se sembra americana poi non lo è, andando a vedere nello specifico. Comunque, ecco, non mi ero preparato nulla di in generale, però mi ha fatto riflettere quello che diceva il Monco, cioè un po' un tantino meno interessante dell'anno scorso. Per me no, non credo sia così, poi magari andando a vedere lato per lato i film potrebbe essere vero, però in generale per quello che ho dovuto fare, mettere insieme i titoli, credo che sia all'altezza dell'anno precedente. Sono state molte belle sprese, grandi film, magari qualcuno è slittato nel 2013, ma ci sono stati comunque. Direi che magari, ecco, come numero meno, però come interesse c'è roba che gli altri anni difficilmente avremmo visto, come quello che sottintendevamo prima. Sì, anch'io sono andato a prendere più che altro da paesi, soprattutto europei, e era, volevo sottolineare l'ultima cosa per chiudere, che è stato un bel l'anno per il cinema di genere, anche se poi di genere non è, perché sono cose che scavalcano un po' i confini. La roba di genere, la roba thriller, horror, e insomma ibridi tra questi vari generi, è uscita, insomma, sono usciti dei filmoni, attesi o no, sorprese o no, è stato un bell'anno per la roba pulp, horror, thriller, è stato interessante. Sono stati dei film che secondo me magari quest'anno sono passati un po' in sordina, ma entreranno nel, insomma, in quelli da ricordare. Tutto qua. Ok, intanto vi faccio notare che c'è stato un altro mi piace alla nostra pagina su Facebook. Evviva! Siamo di una, ragazza, addirittura, che non è né amica mia né amica vostra, quindi... Nei coglioni. Ragazzi. Siamo 130 adesso? 129. Ah, oh. Siamo sempre a uno dal berlusconismo. È vero. Ok. Continuiamo. No, vuoi dire ancora qualcosa? No, no, vabbè, alla fine i commenti coincidono con i vostri, più o meno. Concordo col fatto, come abbiamo già detto, che l'America sembra essersi presa una pausa di riflessione e ha sbrigato alcune pratiche, come la chiusura del franchise del Cavaliere Oscuro. Stavo per dire, è ripartita invece un altro franchise importante come quello dello Hobbit, però effettivamente non è cinema americano, è cinema neozelandese. I Vendicatori, però. Anche quello dei Vendicatori, sì. Anche quella è stata una chiusura, però, perché sì, la parentesi della prima fase della Marvel, quindi magari, vista la presenza di questi grossi calibri, effettivamente si è preferito puntare su incassi sicuri. Si è aperta anche una saga, oggi c'è la notizia del Time che considera, ha fatto la previsione, no, del Financial Times, scusate, che ha fatto la previsione che il blockbuster che incasserà di più del 2013 sarà il seguito di Hunger Games, un film che spero non appaia in nessuna top dei nostri, ma mi fido di voi. E niente, quindi dimmi. No, dico, anche quello, altro blockbuster che mi ero dimenticato. Sì, sì. Quindi, altro grosso blockbuster. E sì, l'Italia è indecifrabile. Io continuo a citare il giornalista di Kaido Cinema che ha detto che non esiste una scena, ma le nostre pellicole vanno valutate singolarmente. Quest'anno, almeno da questo punto di vista, ci sono state 10 ottime pellicole, come dicevi tu. Io sinceramente ne ho viste solo 4, però mi fido del tuo giudizio, anche perché, come abbiamo detto, ci sono state magagne distributive qua e là sui canali, diciamo, non ufficiali né legali, non sempre si trovano queste perle nascoste, quindi, però anche il fatto di averne visti 4 ottimi è un fatto positivo, ecco. E poi vabbè, c'era anche qualche film spagnolo di rilevanza, insomma, ne parliamo nelle top e nelle flop, insomma, però secondo me è stato un buon anno per il cinema. E forse non so se è migliore del 2011, perché c'era quel mostro sacro di Tree of Life che forse fa pendere l'ago della bilancia verso il 2011, però comunque un anno soddisfacente. Ecco, diciamo che il bilancio a metà anno fu piuttosto diciamo negativo, ma in attesa di qualcosa, che uscisse qualcosa di veramente rilevante. Infatti poi la seconda metà dell'anno, come avevamo previsto, si è rivelata migliore, ecco. Ci siamo ripresi, insomma. Ci siamo ripresi, sì. Anche okay, perché tanti di quei film non li avevamo visti, ma intanto sono usciti in DVD e quindi sono stati già più reperibili. Sì. Altro blockbuster che mi ero dimenticato è la chiusura di Twilight. Anche tu, vedi, è uno dietro l'altro ne hanno fatti. Sì. Sì, sì. Quindi come potevi far uscire un film di qualità d'autore in mezzo a questi? Vabbè, rimandiamo. Poi magari sono usciti, nel senso, da noi però arriveranno nel 2013. Quello. Sì. Quindi aspettiamoci un super anno americano. Com'è? È uscito Vita di Pi. Chi? Chi? Vita di Pi, no. Chi? Mi? Che a me non è dispiaciuto come è dispiaciuto a te, però no, vabbè, però nel senso non lo definirei un film d'autore, ecco, anche no. Se di Ang Lee era una battuta, sì, nel senso, poi piaccia o no, lì stiamo più sul blockbuster decisamente, sì. Va bene, allora, già che siamo in tema 2013, leviamocelo subito sto anno. Partiamo con propositi, è giusto? No, io sì. Sbaglio sempre. Propositi anche non cinematografici, perché no? E cosa ci aspettiamo di più? Magari vi siete già segnati qualche film che sta per uscire, magari tra un paio di mesi, non lo so. E vai, basta, andiamo in ordine alfabetico. Alex Diro, via. Ok, non lo so, io sembra quasi che non sappia cosa succeda dopo gennaio, perché si sono concentrate talmente tante ottime uscite in questo mese che i miei orizzonti si concludono il 31 gennaio, quindi insomma aspettavo tantissimo il nuovo film di Tarantino, quindi Django Unchained. Ho molta curiosità su Flight di Robert Zemeckis, di cui ho letto parlare un gran bene. Per il resto voglio vedere The Master, prima o poi ci riuscirò in qualche modo, insomma, quindi scorrendo le altre uscite ce ne sono molte importanti, adesso però non mi sovvengono in mente qui da qui fino al 31 gennaio. E niente, al di là di questo, cioè, per quanto riguarda i propositi che riguardano insomma strettamente i film, c'è John Dies at the End di Coscarelli, che spero trovi una distribuzione in Italia. No, io l'ho già visto, tra l'altro, ma ne dubito fortemente. Neanche in un video come... Forse in un video, però Babba O'Tep aveva più roba che tirava. Questo è un filmetto, cioè non c'è Campbell, non c'è Ossie Davis, non c'è Elvis. E poi a me non è piaciuto molto. Comunque, a parte questo, non credo. Cioè, tanta di quella roba che ho visto che non è mai uscita, mi sentirei di dire che non arriverà, almeno non nell'immediato. Ok. E per il resto, non lo so, i buoni propositi sono quelli che casomai di scrivere un po' di più. Sì. Se siete contenti anche voi, anche se ultimamente non potete dirmi niente. Che palle. No, dicevo, a parte la recensione di Wreck It Ralph che si è persa nei meandri, c'era quella bellissima di Intrinseco che lo definiva turbastico. Turbastico. E niente, per il resto, magari riuscirò a guardare qualche film in più, perché quest'anno il numero dei miei film visti impallidisce di fronte ai vostri. Io sto sul mio piccolo 51. Okay. Quindi voglio incrementare. L'anno prossimo ne devo vedere tutti. Basta, faccio come Frusciante, mi do al cinema, abbandono tutto il resto. No, non fare come lui, si vede anche la robaccia più schifosa del mondo. No, ma infatti io aspetto che la vedete voi la robaccia, poi me lo venite a dire, quindi quella la evito, almeno quella. Vabbè. E cedo la palla Intrinseco, visto che viene io. Eh no, però l'articolo non si conta di solito. Ah, giusto, vabbè, vai. Vado io allora? Sì. Ma io non ho... Ecco, uno era The Master, l'avevo messo in lista comunque, l'avevo preparata prima, ed è un buon segno, visto che il primo della mia lista è uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni. Non so se poi verrà confermato, comunque si parla del 2013 per The World's End di Edgar Wright. Poi non so in Italia, non so se esce ufficialmente quella data, comunque la chiusura della trilogia del Cornetto, ci va sul sicuro, Wright, specie quando in mezzo ci tornano Peg e Frost. Poi, vabbè, Django, ma non ci perdo neanche tempo, era ovvio. Il prossimo film di Refn, che insomma attendo come il messia, visto che Drive è anche quello che è balzato tra i miei preferiti. E poi uno che più che altro è un rimpianto, ma non ufficialmente, perché magari uscirà, è Antiviral, del figlio di Cronenberg, di cui ho sentito parlare molto bene. Volevo vederlo, speravo di vederlo al cinema, ma ci credevo poco, e spero di rimediare. Poi ci sono altre cose magari meno nobili, ecco, metto una colpa, mi intriga un po' il Man of Steel, non so se uscirà nel 2013, che ormai sia confermato, sì. Sì, ma penso maggio-luglio? Sì. 19 giugno. Preciso, in mezzo. E quindi, ecco, mi concedo questa piccola... questa bassezza, perché comunque ci spero un po'. Finora Snyder l'ho sempre odiato visceralmente. Questo qui potrebbe fare il colpaccio e basta. Vai, Monco. Propositi, niente? No, sono soddisfatto. Io non guardo mai al futuro, quindi non so neanche cosa esce. Però sto guardando adesso, per quello avevo la data pronta. Sì, a parte Django, I Miserabili, dai, I Miserabili lo metto. Oh. Anna Karenina, è vero. E il nuovo di, oddio, è Lars von Trier, quello molto erotico, vedremo cosa ha tirato fuori. Per il resto, ecco, tra i propositi è quello di aggiornarmi più sul futuro, interessarmi più su quello che esce. E soprattutto guardare i film dell'anno durante l'anno, perché negli ultimi giorni ne ho visti 30 in 30 secondi tipo, quindi dosarli un po' di più, non posso ridurmi sempre all'ultimo momento, e poi essere molto più cattivo coi film. Sono stato un po' troppo bravo, mi sono reso conto adesso. Allora io che sono un pezzo di pane, cioè io sono l'ingenotto del gruppo. No, tu sei il... Fatemi buona compagnia. Il passionale. Quello col cattivo gusto, sì. Il passionale, che è? E poi stai sempre a rompere a me, io vedo i film brutti. Però li tratti male, poi, i film brutti, capito? Eh beh, sì, è una cosa equa, insomma. Li vedo e li tratto come si merita. Ok, dai, allora, vabbè, conduci tu, io mi stavo per riprendere lo scettro, ma sei tu che vai. Punto, ma come ti permetti? Allora, non... Nomination! Nomination! Musichetta? Non partiamo subito dal top, insomma, partiamo da qualcosa di minore, per esempio, anzi, partiamo subito dal premio personale, che è un premio che abbiamo deciso di dare singolarmente a un film che magari non è top 5, ma è top 6, o magari è quel film che ha avuto poca fama, ma ne meritava molta di più, o magari è un film che non è uscito e l'abbiamo voluto omaggiare così, insomma, è una cosa personalissima e... Partiamo di nuovo da Alex Diro, a chi hai premiato? Allora, io ho premiato un film italiano che purtroppo è rimasto fuori dalla top 5 per un soffio, ma che fondamentalmente considero ex aequo, vincitore del miglior film italiano, insomma, insieme ad altri due che poi sono in top 5 e ne parleremo più tardi. Ovvero mi riferisco a Diaz di Daniele Vicari. Vabbè, è un film molto molto crudo, un vero proprio pugno allo stomaco, come non so se ne abbiamo mai parlato in puntata, perché forse no. ha avuto una distribuzione veramente scellerata ed è facile comprenderne. Ma non era addirittura uscito prima che ricominciassimo? Sì, infatti. Forse sì, che poi mi pare che ci fu il giorno della sentenza. Sì, l'hanno rimesso dopo, però non so se era vero, vabbè sì. E sì, insomma, un film veramente molto molto bello. Un film crudo, un film che ti colpisce allo stomaco, grande prova registica da parte di Vicari, grande coraggio anche, non cita nomi, ma forse è la cosa migliore che fa, insomma, non è un film d'altaio documentaristico, è una storia raccontata molto molto bene, una storia buia, insomma, della storia italiana recente. E quindi insomma lo promuovo a pieni voti, come ho già detto, quindi vince ex aequo il premio come miglior film insieme agli altri due. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso e che ho visto ha fatto storcere il naso anche a Intrinseco, ho letto un suo commento di recente postato sul forum di Games Village, è quella cosa, cioè, di Santa Maria, insomma, che chiede scusa, insomma, dopo la mattanza. È abbastanza stonata come battuta quella di anche che non è così bello, così tosto, È proprio una caduta di stile, peccato. Sì. Era preferibile proprio non lasciare nessun... Addirittura dire... non alzare i caschi, sì, per far vedere le facce, perché quello è successo. Sì, sì, sì. Un'altra frase che poi, vabbè, hai citato il film, che hai detto tu, è quella... I miei non riesco più a reggerli, come si fa con i cani, insomma. E forse è la frase che meglio fotografa il film. E niente, quindi... Ci siamo promessi di mantenerci stretti, quindi... Il mio premio va a Diaz, di Daniele Vicari, punto. Ma prima di cederti la parola intrinseco, dico, ti quoto Alex e dico ancora più meriti a Diaz nell'anno in cui è uscito ACAB, che è praticamente il contrario, cerca di dare delle scuse alla violenza della polizia, per favore, no, anzi Diaz è quello che dice la verità sulla polizia italiana. Prego, è bello intanto. Che... Questo è stato l'anno del ritorno, per me graditissimo, ai film politici, tra virgolette, di Diaz, ACAB, anche se poi non è un film impegnato, anzi, meno di niente per me, e anche Romanzo di una strage, che appunto era romanzo e romanzatissimo, però a me piace, io sono un fan sfegatato di Rosi, e vedere questi film qui mi commuove, e infatti io volevo mettere... come film, quindi passo alla mia posizione a mettere Diaz, ed ero un po' indeciso perché insomma, i film italiani sono tutti meritevoli, quelli che avevo considerato, però per la top 5 e tutto ero un po' indeciso, e quindi anche io ho messo Diaz, non perché sia sì, magia infatti, no, appunto, perché lo dico subito, nella mia top 5 non ho voluto mettere gli italiani perché di quelli buoni comunque nessuno si avvicinava, sarebbe stato proprio un favore, non va. Per cui do il premio speciale a uno che magari non è il migliore, perché Reality magari tecnicamente era un po' più raffinato, magari in generale c'è di meglio, però Diaz, ecco, ho già detto perché a me piace il film di denuncia, mi ricordo Le mani sulla città, mi ricordo Salvatore Giuliano, quei film non li facciamo più, erano una potenza, Rosi è ancora uno dei registi più grandi che abbiamo avuto, io adoro questo genere, finalmente esce Diaz, un film che fa male, davvero, e fa male che non ci siano altri film così, e che esca ACAB e qualcuno lo spacci anche per serio film che rappresenta la situazione, no, era fiction al 100% ACAB. Ecco, Diaz perché ACAB se lo diciamo lo epuri da la connotazione politica, è anche un bel film di genere, di sì, è un diciamo un poliziottesco quasi, sì, lo metto in quel mucchio perché non è, cioè non ha senso considerarlo diversamente, per me non puoi, non è credibile come documento. Invece no. Diaz, sì, poi anche lì se ti ricordi, io tra i miei commenti ho detto non mi piaceva questa storia della bottiglia, del nodo narrativo, no? I personaggi, sì. Che però è un mezzo che insomma ci sta, un po' di narrazione ce la devi mettere, però per me la sequenza importante c'è, basta quello, il resto si dimentica, è un film potentissimo, io ecco... Davvero vorrei vederne di più di film così in Italia, perché Reality è un bellissimo film, l'ho detto, l'ho recensito, ce ne sono stati altri altrettanto belli, ma Diaz è magari meno bello, meno piacevole da vedere, ma cazzo che potenza. Diaz, vabbè, mi fate sentire una merda, perché no, io non l'ho messo, adesso io sono quello che sceglie le commediole o altro, ma vabbè. Io ho scelto un film libanese. Il cui titolo originale è in francese, quindi non so se ci hanno messo anche qui lo zampino come produzione o in Libano si parla il francese, no, non penso, vabbè, comunque è il film E ora dove andiamo di Nadine Labaki, che racconta la storia di questo villaggio popolato, sì, sempre in Libano, popolato sia da cristiani che da musulmani, in cui va tutto bene incredibilmente, non ci sono guerre religiose, vanno a braccetto e non ha nessun problema, solo che insomma prima o poi qualcosa succede come in tutto il mondo e le donne del villaggio fanno di tutto per evitare che arrivino notizie da fuori di tutte le guerre nel mondo tra musulmani e cristiani, e niente, c'è il giusto umorismo, è un bellissimo film, la Labaki era già famosa per Caramella, questo è ancora più bello, una bellissima sceneggiatura, è un film corale al femminile, tutte le attrici sono bravissime, avrei quasi voluto metterla nella top 5, però appunto non è vicino agli altri 5, quindi gli do questo premio speciale. avrei voluto premiare Dark Horse, l'ultimo inedito praticamente di Solons, ma preferisco questo, che almeno questo è vedibile, infatti in Italia è uscito intorno ad aprile, e boom. Allora, due premi su tre per Diaz, bravissimi, siete stati molto corretti, mi piacete, ciao. E visto che stiamo per fare l'animazione, ma uno o anche più di uno film d'animazione non siamo riusciti a vederli, ma facciamoli adesso, i rimpianti del 2012, quei film che non siamo riusciti a vedere. A me la lista è lunga. Vabbè, dinne 5, 5 o 6. Allora, 5 o 6, vediamo. Allora, Amour, nonostante ne avessi la possibilità, non sono riuscito a vederlo, perché comunque, nonostante la distribuzione scellerata, c'era sui canali illegali. Poi, Pietà, di Kinky Duke, e quello mi sa che non si è visto nemmeno sui canali non convenzionali, no. O sbaglio? Nine, volevo rivederlo, ma zero. Poi, è stato il figlio di Cipri, visto, che è apparso solo di recente, dovevo fare l'infornata come hai fatto tu di 30 film in 10 giorni, però non l'ho fatta. Poi, Cosmopolis, perché non si è abbassato il prezzo del Blu-ray durante le feste. Erano tanti, eh? No, sì, però sto cercando, cioè, sto a fare la cernita di quelli migliori, diciamo. Vabbè, Take Shelter, uh-huh, che vabbè, non è esattamente un film del 2012, ma da noi è arrivato nel 2012. E più o meno basta, dai. Vabbè, c'è la tripletta di film d'animazione francesi che purtroppo sono stati distribuiti malissimo, però la tela animata, Ernest and Celestine, e l'altro qual è? La bottega dei suicidi, sì, la bottega dei suicidi di Le Conte. Bottega Bay. E quindi questi qua. L'Intrinsicus? Ma io che? Io. Allora, vabbè, uno lo sapete, ho già detto, dica ai ascoltatori, Il Sospetto di Vinterberg, che davvero che non sia passato nemmeno al cinema, neanche a Varese, quindi zero. O magari sì, io non ho guardato. Boh. Poi Amour, che idem, non è passato, si trova smagheggiando su internet, ma la qualità non era il top, è un film di Haneke, bisogna vederlo bene, allora ho detto, nah. E poi vabbè, l'ho già detto, ma questo comunque magari non conta perché è un film da festival, però Antiviral di Brandon Cronenberg, che non si sa che fine ha fatto, ormai è di un anno. E poi sì, anch'io Ernest e Celestine, perché comunque sul forum se ne parlava molto bene, insomma la voglia di vederlo c'era, anche per chiudere bene con l'animazione, che quest'anno forse non era il top, e invece niente. E poi basta, credo, insomma i principali rimpianti sono questi, poi magari qualcosa di bello che non sono riuscito a rimediare o a scoprire, soprattutto ci sarà. Idem, ma aggiungo La Nave Dolce, sempre di Vicari, visto che siete appassionati di Diaz. Anch'io Il Sospetto, Passion di De Palma, anche se è stato massacrato, ma vabbè, almeno mi è rimasto lì, insomma, voglio vederlo. Wadija, la bici verde, che è uscito, speravo in qualche modo di trovarlo illegalmente, ma zero. E anch'io, che è? Aspetta, ero io. Mamma mia. Vai, ho tolto i suoni della chat. Madonna, che rumori strani ste gallette. Ed infine anch'io Ernest e Celestine, e quindi ci ricolleghiamo Ernest e Celestine, il mancante Ernest e Celestine, e parliamo dei migliori film d'animazione. Visto che l'esperto è Alex Diro, parta pure. Se ha finito in chat. Sì, figurati, io ho sempre tempo per voi altri, ragazzi. No, sì, l'esperto di animazione nel senso che mi piace, al contrario vostro, solo per quello, perché fondamentalmente forse per rivalutare l'anno dell'animazione conveniva vedere quei film francesi che purtroppo nessuno di noi ha visto, perché effettivamente è stato un anno un po' di magra, nel senso che il film migliore è uscito solo negli Stati Uniti, purtroppo purtroppo alla fine noi comunque lo vedremo fra una settimanella circa, ovvero il 17 gennaio quando uscirà nelle sale. Sto parlando di Frankenweenie, che, vabbè, avete potuto leggere la recensione sulle pagine del blog, e sono abbastanza entusiasta di questo ritorno di Burton al grande cinema. Per il resto, beh, è mancato il film Pixar che riceve consenso unanime di pubblico e di critica, perché comunque Brave, come ne abbiamo parlato anche nella puntata relativa, è un film che innanzitutto non ha convinto appieno la critica, ma soprattutto abbiamo definito all'unanimità un Pixar minore, nonostante a me sia piaciuto abbastanza, mi pare di ricordare che anche a voi non dispiacque, insomma. Quindi è mancato il Pixar forte. C'è stato un buon film d'animazione della Disney, forse, o solo discreto, insomma, che è Ralph Spacca Tutto, di cui dovevo scrivere la recensione, ma me ne sono dimenticato e non l'ho scritta più perché ero abbagliato. La recensione. Perché ero abbagliato ormai dalla bellezza di Frankenweenie. E no, vabbè, esagerato, no, semplicemente che proprio è, diciamo che con Ralph Spacca Tutto hanno cercato di fare quello che fece a suo tempo Toy Story con i giocattoli, ovvero dare un'anima a questi personaggi da videogioco. Però non lo so, a me una cosa che non è esattamente piaciuta è tutto lo scenario, nel senso che comunque fino a metà film è gradevolissimo questa stazione dei videogiochi, anche comunque gli altri scenari che vengono affrontati, anche lo stesso il livello di Ralph del gioco classico che ricorda appunto il primo Donkey Kong o il Super Mario, non ricordo mai se si chiamasse Super Mario o vabbè, insomma, l'avete capito, quello con lo scimmione che sposta tutti i piani e distrugge tutto. E poi però quando il film arriva a Sugar Rush, che è praticamente l'ambientazione dove c'è Vanellope è la pronuncia americana, Vanellope l'hanno tradotta qui in Italia, Glitch. il Grinch, esatto, il Grinch Glitch, diventa, non lo so, un po' stucchevole, ma sembra banale dirlo perché effettivamente tutti quei dolci, tutte queste cose così. Ci sono un sacco di citazioni simpatiche, c'è anche una gigantesca citazione dei Simpson, perché il regista Rich Moore è stato anche, ha diretto diverse puntate dei Simpson, ovvero non so se avete colto la citazione degli Oreo. Io là sono andato in brodo di giuggile perché quando vedo i soldatini di Barza che fanno quel cabbiam, lo dobbiamo, la mi piace un sacco, diventa sempre tanto calda. E niente, però è un film abbastanza deboluccio proprio perché poi, non lo so, l'ho visto tanto product placement, come si suol dire, lì in Sugar Rush, non è esattamente originalissima come ambientazione, ma anche i personaggi non mi sono sembrati poi così eccezionali. E Tant'è poi che ho fatto anche fatica a inserirlo nella mia piccola top 3, perché arrivare alla top 5 secondo me era impossibile. Stai dicendo? sì, che fa venire il diabete, la seconda parte di Sì. Spectral. Perché poi non è neanche scritto male come film, c'è anche quel finale dove lui accetta la sua condizione di cattivo, eccetera, eccetera, però boh. Diciamo che dopo Rapunzel, io mi aspettavo sinceramente di meglio, perché Rapunzel è stato veramente una sorpresa a livello qualitativo. E questo forse, non lo so, era molto ambizioso il progetto, prometteva tante, tante belle cose, però alla fine il risultato è solo discreto. E una cosa che ho apprezzato è il fatto che comunque non ci siano poi, non si spinga così tanto sul citazionismo. Nel senso che sì, ci sono un sacco di citazioni, però non si punta solo su quello, come ad esempio forse sarebbe diventato il progetto in mano a DreamWorks, che insomma con le citazioni ci fa sempre un po' a botte, ecco. E niente, quindi per quanto riguarda il resto, c'è un film della Aardman che io trovo delizioso, anche se non è ai livelli di Wallace and Gromit, il lupo e il coniglio mannaro. E bah, non lo so, non ho visto Paranorman, però insomma, ricordo che Intrinseco ne parlò abbastanza in maniera fredda. Sì, non è male, lo metterei quasi quasi a livello di Wreck-It Ralph, che non mi è piaciuto molto, quindi per reazione direi alla fine non era male neanche quello, però sì, non era nulla di trascendentale. E niente, quindi per il resto c'è Hotel Transilvania in cui riponevo qualche speranza perché diretto da Genndy Tartakovsky, che è il regista delle serie animate di Star Wars, però anche lì mi è sembrato abbastanza scialbo. Insomma, ho visto parecchie recensioni negative e non so perché il mio interesse nei confronti di quel film è calato. E niente, I tre quali cioè. sono, insomma? Allora, aspetta, i miei tre. C'è anche Raph Spaccatutto, ma diciamo che è una candidatura buttata lì. Gli altri due sono Brave, che comunque è piaciuto, e il film dell'Hartman di cui parlavo, che è Pirati, Briganti da Strapazzo, che secondo me è il miglior film d'animazione di quest'anno. Ciumbia. E purtroppo non sono riuscito a vedere La collina dei papaveri, che invece insomma, è il film Ghibli dell'anno. E niente, poi sai, quest'anno è uscito anche Porco Rosso, no? Però, Sì, insomma, nominare un film anche la degli anni puta, credo. 80. Forse il miglior film d'animazione del 2012 è un film d'animazione degli anni 80. Vabbè, ma non facciamo gli Evanes, dai. No, no, però, vabbè, fondamentalmente se ci rifletti è vero perché non è che ci siano state grandi uscite, ecco, o no? Questo completa il discorso degli americani sono presi la pausa, anche la Pixar si è messa in pausa. Sì, ma poi c'è stata quella lavorazione un po' travagliata di Brave con l'avvicendamento alla regia, la Chapman che è stata fatta fuori, insomma, forse, quello ha sicuramente influito sulla buona riuscita, cioè, sul fatto che Brave non sia il film straordinario che tutti si aspettano da Pixar. E quindi sì, comunque rientra un po' in quel discorso lì che facevamo all'inizio, ovvero del fatto che gli americani sono andati in vacanza quest'anno. E quindi 5 leggende fuori e Sì, 5 leggende assolutamente fuori perché, boh, non lo so, io gli avevo dato una sufficienza abbastanza regalata, ma poi riflettendoci è un film forse anche ampiamente insufficiente. Le ragioni alla fine le ho espresse sia nella recensione che quando ne abbiamo parlato, quindi non vorrei ripetermi anche perché l'ho completamente rimosso, tant'è che non ne stavo nemmeno nominando fino a quando non l'hai nominato tu, insomma. però quello l'hai scritto, eh. E invece Infatti. se fosse uscito in Italia Il segreto di Krell, quella roba là, sarebbe no. Sì, ma guarda, probabilmente visto l'anno di Magra, probabilmente sì, sarebbe apparso nella mia top 3, top 4, top 5, quello che è. Perché alla fine mi è piaciuto veramente, veramente tanto, però è un film del 2006, ormai le speranze di vederlo qui in Italia sono abbastanza vane. Intrinsecos. Vabbè, ormai ha già detto lui la mia nomination. Le Appunto, ma tu le uguali dici? con sì, uguali con in più La collina dei papaveri che abbiamo già commentato entusiasticamente nella puntata. Quindi sì, gli altri sono Brave, però in terza posizione, non le metto in ordine, però effettivamente Brave tra i tre è il meno interessante. Secondo, Pirati, Briganti da Strapazzo, che nonostante anche il doppiaggio potesse essere una minaccia al film, non era malissimo neanche quello. E in effetti è il più simpatico dei film d'animazione che sono riuscito a vedere quest'anno. Quindi brevemente chiudo e passo la parola. Io sì, in più di quelli citati avrei visto anche Il gatto di Parigi, che era candidato agli Oscar, forse quest'anno, ma vabbè, no, era candidato, Era l'anno vabbè. scorso, l'animazione straniera l'anno scorso, Sì, no? vabbè, comunque non è uscito, quindi era solo così per dirlo. Anch'io La collina, che ne avevamo già parlato con molto entusiasmo, e Pirati, quindi alla fin fine ne abbiamo detti 4 o 5 e quelli rimangono la nomination finale. Quelli andranno a finire le nostre nomination. Ecco, per dire, Pensate. finiranno con Pirati, Brave, La collina dei papaveri e vabbè, Ralph, così tanto per far numero. Eh sì. E va bene, e passiamo a questo punto alla colonna sonora, o se proprio volete, anche solo canzone singola, insomma, quello che più vi piace. Di nuovo Alex Diro, vai, vai, vai. Strigni. Strigni. Strigni. Allora, per la canzone singola, ma poi anche comunque il resto della colonna sonora, mi è piaciuto abbastanza. Nomino Skyfall, che con la sua canzone di apertura di Adele che segna un po' un ritorno alle origini, mi è piaciuta veramente tanto. E un'altra colonna sonora che ho nominato soprattutto per una singola canzone è Holy Motors, perché c'è nel bel mezzo del film, adesso non mi ricordo cosa c'era scritto sul foglio, insomma una sorta di intervallo, proprio intervallo mi pare che ci sia scritto. Entr'act, come il film. Entr'act, sì. Esatto, e c'è un pezzo che è meraviglioso. Quello, l'ho veramente adorato, dopo che ho visto il film l'ho ascoltato per giorni, ininterrottamente. Fantastico, e quindi nomino questi due. E poi nomination per Lo Hobbit, ecco. La colonna sonora, qua proprio fan service. Lo Hobbit, colonna sonora di Howard Shore, ne abbiamo anche parlato durante il commento nel podcast del fatto che non è che sia particolarmente originale, nel senso che riprende alcune sonorità dalla trilogia del Signore degli Anelli, e per il resto lavora molto su rimasticature della canzone Misty Mountains. Però non so, a me è piaciuta veramente tanto. Trovo che Shore sappia sempre sottolineare i vari momenti del film. Lo Hobbit, Holy Motors, Skyfall. E nomination anche per Moonrise Kingdom, sia per la parte, insomma, delle canzoni, cioè la colonna sonora non originale, sia per quella originale che è stata composta da Arnaud Desplat, immagino che si legga. Desplat. Sì. E è una nomination più che altro alla personalità, al professionista Desplat, perché quest'anno ha musicato veramente. Musicato è un termine corretto, no? Si può dire. Sì. Ok, grazie cari. Siete la mia Accademia della Crusca. Esatto. Quest'anno ha composto le colonne sonore di Moonrise Kingdom, Un sapore di ruggine ossa, Argo, Reality, Le cinque leggende e Zero Dark Thirty. Quindi insomma, grande lavoro per questo compositore. Se devo dire la verità, non ricordo in particolare il motivo di nessuno di questi film. A parte forse Moonrise Kingdom, che comunque i lavori di Wes Anderson sono sempre notevoli sotto questo punto di vista. Prego. Vai. Vado? Io ne avrei fatte 5. Ne fatte 5 o sono troppe? Tanto ne passano 2, vai. Sì. Dunque, io per la primissima è un film che, vabbè, da noi è uscito nel 2012, ma non potevo esimermi, I Muppets, che è un capolavoro. Non potevo metterlo tra i top 5 perché non ho voluto, ma le musiche tutte, dalla prima all'ultima, quelle originali, quelle non originali, quella candidata agli Oscar, a me non era Muppet, sono stupende, io le riascolto a ripetizione. Ah, è vero, anche Muppet, vedi? Vabbè, c'è la nomination. Vabbè, c'è la tua, quindi sì. Okay. Non poteva mancare, veramente il film è meraviglioso, e davvero mi spiace non metterlo, ma almeno ho dovuto trovargli un posto, ed è meritatissimo, comunque le musiche sono splendide. Io non amo i musical, quindi dirla tutta. Poi anch'io ho messo Skyfall, da qui sono in ordine sparso, non mi ripeto, soprattutto per Adele, un pezzo seducente e retro molto bello. La Talpa, che ha una colonna sonora discreta come il film, però stupenda. Alberto Iglesias, una delle più belle, se non sbaglio era candidata anche questa l'anno scorso. Poi Moonrise Kingdom, anch'io. E poi in chiusura, l'ho messa per ultima così non andava a entrare nelle vere classifiche, quella di Lords of Salem, che è una delle cose più strane e provocatorie che esistono, mischia classica e heavy metal e rock anni 70, è davvero delirante, e più lo metto in giro questo film meglio è, per cui volevo citarlo anche qui. Poi insomma è il film di un rockettaro e non poteva non essere premiato per le musiche, o candidato. Che paraculo. Anch'io sì, ridevo anch'io, ma mi si era silenziato il microfono. Ecco. Ma paraculo perché? E tiralo via quel dito da quel tasto. E che cacchio. No, ma ci vado per sbaglio proprio. Eh sì, certo. Il silenziato. All'occhi all'occhi. Allora, tocca a me, spazio. Vabbè, anch'io ho Moonrise Kingdom, per i motivi che ha detto Alessandro Di Romolo. Aia, ha detto. Aia. E sì, insomma, è bellissimo. Poi la fuga, che è il tema principale, è strepitoso. Poi è così centrale anche nella storia all'inizio. Poi il non avete citato, vabbè, le canzoni principali, ma soprattutto anche il Tam de l'amour, quella che cantano in spiaggia, quella che ballano in spiaggia i due ragazzini, bellissima anche quella. Anch'io i Muppet, quindi questi due film entrano di sicuro in lista. Intanto me li sta segnando su un foglio, e quelli che sono doppi entrano di sicuro. Tutte bellissime, d'altronde i Muppet, da una vita, il loro lavoro questo. Se non li citassimo sarebbe uno scandalo. Poi Ruby Sparks, perché mi sono piaciute tantissimo le musichette francesi, molto alla Sofia Coppola, fra cui Sa plan pour moi, Cantuela e Infraction de seconde, tutte bellissime. E poi cito anche la colonna sonora di Pollo alle prugne di Olivier Bernet, è un film incentrato su un violinista. Il violino nella parte finale è importantissimo, ci sono delle musiche meravigliose, non potevo esimermi. E quindi, vabbè, poi dopo facciamo i calcoli. Quindi Moreschi, Nomi Muppet, Ruby Sparks e Pollo alle prugne. E passiamo adesso alla fotografia. Madonna, cioè siamo un'ordinazione. Fotografia, il film che vi è piaciuto di più fotografare, vai. Allora, che hai detto? Cosa? Lui. Sembrava un'ordinazione. Sì. La sua, perché alla fine c'era pure pollo e patate, vabbè. Oh, signore. Allora, fotografia, abbiamo detto? Sì. Allora, fotografia, inizio io come sempre, no. Sono il più bello. Allora, io ho due nomination, due. Allora, la prima è Skyfall, quindi Roger Deakins. Proprio cito giusto la scena che forse mi ha più colpito, che è quella sul finale, quando c'è il fumo illuminato dal fuoco in lontananza e Silva che si muove, insomma, in questa campagna scozzese. È notevolissimo tutto il film, ma soprattutto questa parte finale dal punto di vista della fotografia l'ho trovata veramente eccezionale. Poi vabbè, lui è plurinominato all'Oscar, plurivincitore, insomma, grande, grandissimo professionista. E l'altra invece è C'era una volta in Anatolia, soprattutto per il fatto che tutta la prima parte del film, tre quarti di film, insomma, ambientato di notte, i protagonisti si muovono solo sotto la luce dei fari delle macchine in questa campagna, in Anatolia, insomma, che è costituita quasi esclusivamente da grosse distese di prato senza un lampione nel giro di 8 milioni di chilometri. E anche qui c'è un lavoro di chiaroscuri veramente eccezionale, veramente veramente bello. E niente, poi ho nominato anche quella di Millennium, perché comunque mi sembra che dal punto di vista tecnico Millennium sia un grandissimo film. Mi riferisco a Uomini che odiano le donne, insomma. E anche questa fotografia abbastanza algida, gelida. Però sì, questi due, dico. La Spezia. Spezia, sì. tre ne ho dette, no due. Alla fine non ce l'ho fatta. No, vabbè, perché alla fine non volevo un po' rivedermi con quelli della top 5, quindi ci ho messo tre film che anticipazioni non appariranno nella top 5. No. Vedi. Va bene. Andranzighi. Io invece non ho fatto il ragionamento inverso, cioè l'ho messi comunque, quindi anticipazioni a go-go. Vado? Vai. Allora, la prima l'ho messa anche qui, è chiaro, non sono sorprese, La Talpa, che secondo me è perfetto da tutti i punti di vista, però la fotografia è una delle cose che mi piacciono di più. Questa mediocrità, mi viene da dire, anche nelle immagini, il grigiore, banale grigiore londinese, ma più originale il grigiore dei personaggi, di questi ambienti, uffici, burocrazia, ipocrisia. Una delle cose più belle del film è la fotografia, è stupendo in generale, ma secondo me non poteva mancare tra i top. Poi ho messo Holly Motors più che altro perché per cose come gioca con le immagini, non è tanto un discorso di filtri, di immagine in sé, ma di quello che mette sullo schermo e dei colori, della composizione dell'immagine, i vestiti. Secondo me è sorprendente da tutti i punti di vista. Anche qui nomination paraculo, ma terza, così non inficia, dell'Orzo Salem, che ha una fotografia pazzesca, anche qui una profondità mostruosa. Poi anche questo è un fatto di accostamenti, cioè un gioco di luci, di neon, che rimandano un po' al cinema anche di Bava, perché no, dalla Hammer, ma anche, sì, fa parte magari della regia come discorso, ma a me piace anche considerarlo un aspetto della fotografia, cioè mettere insieme sì, quello che è nella lente, ma anche quello che è sulla scena, quindi il trucco, il make-up, è davvero originalissimo e stupendo, per cui queste tre. Vabbè, finalmente una come si dice, una categoria in cui abbiamo detto tutti una cosa diversa. Io invece metto quella di Womb, fatta da Peter Smazmari, e siccome è molto simile anche quella di Eva, di Arnau, Vallis Colomea, madonna come si chiamano questi, perché tutte e due molto fredde, ma tutte e due bellissime, e rispecchiano i protagonisti, visto che uno è un clone e l'altro è un robot, tutte e due molto molto belle. E poi una che è il contrario dell'altra, cioè una è Hugo Cabret di Robert Richardson, che ha vinto pure l'Oscar, che è esageratissima, è proprio da fiaba, e tutti i colori sembrano sfalsati, è troppo strano, infatti non vedo l'ora di rivederlo in qualità maggiore e migliore. E poi Shame, che praticamente è come la talpa, è molto mediocre, però mi è piaciuto tantissimo, è semplicissima, come diceva Chabrol, la fotografia migliore è quella più semplice, quella che non aggiunge niente, in effetti qui è talmente bella che cioè, non aggiunge niente, ma è bellissima, mi è piaciuta. E comunque questa è di Sean Bobbitt. Va bene, adesso sceneggiatura. Vabbè, parto sempre io, visto che sono... Sceneggiatura. Sceneggiatura. Allora, qui appare qualcosa che poi è finito in top 5, però ovviamente non lo dico. Allora, vabbè, il primo nome, Aaron Sorkin per L'arte di vincere. E trovo che Sorkin scriva sempre sceneggiature a prova di bomba. Questo è un film sul baseball dove il baseball non si vede mai, quindi teoricamente non dovrebbe uscire dai confini americani, che sono l'unico stato strano ad apprezzare il baseball. Invece ne esce anche il Giappone, è vero, sì. Le Filippine. Vabbè, le Filippine, dai. Beh, anche Cuba. E vabbè, allora vabbè, basta, ok. Vabbè, allora andiamola a vendere a Cuba, L'arte di vincere. Ecco. Vabbè, comunque sia. E anche qui, insomma, non si smentisce, è un film molto avvincente. Ci si appassiona di statistiche che apparentemente, insomma, non fregherebbero un cazzo a nessuno. E invece tiene incollati alla sedia quasi che sia un thriller, insomma. Quindi, trovo che sia Sorkin sia uno dei migliori sceneggiatori di Hollywood, se non il migliore. Altra sceneggiatura che premio è quella di Argo, che non so però se l'abbia scritta sempre Affleck, trovo subito l'informazione grazie a Wikipedia. Comunque anche qui si tratta di un adattamento di un romanzo, mi sembra che anche Moneyball, Arte di vincere, fosse l'adattamento di un romanzo scritto dallo stesso James Beattie. La sceneggiatura è di Chris Terrio, il romanzo da cui è tratto è stato scritto dal protagonista del film, ovvero Tony Mendez, e anche qui alla fine le ragioni sono molto simili a quelle di Moneyball. Il soggetto è sì interessante, ma non ci si aspettava che, insomma, da una storia alla fine semplice si potesse trarre un film così avvincente dal punto di vista della scrittura. Terza nomination va a, aspetta che non mi ricordo, a Paradiso Amaro. È tratto da un romanzo di uno scrittore hawaiano, di cui adesso non ricordo, insomma, è scritto a sei mani da Alexander Payne e altri due mestieranti. Vabbè, insomma, Sì, a parte ha vinto l'Oscar, è un film del 2011, ha vinto l'Oscar, secondo film di Payne a vincere l'Oscar per la sceneggiatura, lo vinse anche a suo tempo. Sideways, che a me non piacque, mentre invece Paradiso Amaro l'ho veramente amato, e l'ho amato anche perché è un film di personaggi, ci sono questi personaggi che sono vivi, sono veri, la cosa che mi ha sorpreso di più, e poi per il fatto che comunque, vabbè, insomma, non ne parlo di più perché avrò occasione di parlarne, insomma, di Paradiso Amaro, quindi se mi spreco tutte le cartucce adesso, poi non so cosa dire dopo. Quindi Paradiso Amaro, Argo e Moneyball, esatto. Va bene. E vai. Allora mi sparo anch'io subito Moneyball, visto che l'hai già detto tu, quindi non ribadisco, dico solo che a suo vantaggio è il fatto che è passato su Sky e l'ho rivisto un paio di volte, non ho resistito, appunto, riesce a entusiasmarti in realtà con così poco, poi in realtà non è così poco. Niccolò, c'è tanto amore tra me e te stasera, vedi? Vedi? Sì. Bravo! Vabbè, qua come si facevano, quando c'è vo, insomma. C'è vo. E per cui mi sono giocato quello meritato all'inizio per andare su cose un po' più personali. Ho voluto metterlo qui perché, poi per altre ragioni, ho dovuto escluderlo in altre categorie, Killer Joe, che è un adattamento di una sceneggiatura teatrale. Io non ricordo gli autori, non me li sono segnati, poi li passerò al Monco per scriverli, perché è giusto, ma insomma è importante il lavoro, poi il nome verrà riconosciuto. Ma no, l'ho messo anch'io, stai tranquillo. Killer Joe è fantastico, ecco, magari non lo premi per la regia perché non è quello che è interessante, ma è una sceneggiatura esplosiva, è tesa quando deve essere tesa, ha dei bellissimi momenti di tensione, ma davvero da thriller serio, però poi in realtà è tutt'altro, è un delirio puro, è un crescendo, un'esplosione di nonsense, di violenza, di insomma, scrivere una cosa del genere, soprattutto per il teatro, poi al cinema è più semplice in realtà, credo, solo l'idea di concepire una cosa del genere per me merita rispetto. Poi sì, anch'io ho messo Argo, vi ricorderete io non ero troppo entusiasta del risultato, però ecco, mi piace l'idea, perché indubbiamente interessantissima, e mi piaceva appunto l'idea del raccontare il cinema attraverso il cinema, c'era amore nel cinema, almeno nella sceneggiatura, però per il cinema, scusate, però poi nella realizzazione credo che non sia stato valorizzato abbastanza, però volevo riconoscere, ecco, il merito ad Affleck di aver scelto, più che altro, che se non sbaglio appunto non è insomma, è merito anche di altri, e sono tre se non sbaglio, quindi mi fermo qui. Ah, ma ne avete fatte tutte e tre, maledetti. Vabbè. Io ne ho messi altri in coda, più che altro per fare numero, poi non so se meritavano. Ok, vabbè, anch'io l'arte di vincere, come si fa a non metterlo? Mi sembra che sia da manuale di sceneggiatura, è solidissimo. Non so come abbia potuto perdere contro Paradiso Amaro, che invece io ho detestato sotto diversi punti di vista. Poi anch'io Killer Joe, perché per i motivi che ho detto intrinseco, ma poi perché da appassionato di noir, questo effettivamente è un noir, ne ha tutti gli elementi, è un noir atipico ovviamente, però insomma c'è tutto, e poi c'è quel crescendo finale che basterebbe quello, è strepitoso. E comunque è di Tracy Letts, che è anche premio Pulitzer, quindi insomma. Poi Ruby Sparks, me la metto dappertutto, di Zoe Kazan, perché è un bellissimo lavoro, molto intelligente, metaletterario, però all'interno del cinema, non è originale, è vero, però fa niente, è stato comunque una bella sorpresa. E poi anche qui c'è un bel climax che vi ricorderete, l'abbiamo visto tutti questo, vero? Sì, insomma, quando abbaia, ecco, lì c'è un bel crescendo. Sì. E infine io ho messo anche un quarto, che è sempre Pollo alle prugne, perché ha questa struttura con il classico inizio che è la fine, e poi è tutto diviso poi ne parlerò di più, lo so già. Ecco, quindi sono... è diviso in 7 giorni, ne parlo dopo, comunque è davvero ben scritto e mi è piaciuto molto. Quindi sono questi i miei 4. E vabbè, dico già che Moneyball e Killer Joe vanno direttamente in nomination, sappiatelo. E vai. Eh sì. E bah, a questo punto passiamo all'uomo, cioè all'attore dell'anno. Vai Alex Dyer. Allora, l'attore dell'anno, allora, se consideriamo tutte le performance, secondo me ci sono due attori che per numero di produzioni in cui hanno partecipato e comunque per qualità media di recitazione vanno nominati, ovvero faccio riferimento a il nome ovvio che è Michael Fassbender, che gay. Insomma, gay, molto gay, io sono molto gay per Michael Fassbender, insomma, che al di là di tutto tutti i film in cui ho partecipato, quindi Shame, l'abbiamo visto anche in Hunger, sebbene fosse un film non di quest'anno, ma che è stato recuperato al cinema perché è esploso il successo di Steve McQueen. Però anche la prova di Prometheus, anche chi ha denigrato il film ha salvato la performance straordinaria di Fassbender, quindi pensavo che fosse dovuto comunque inserirlo in questa top 4, la mia è una top 4. L'altro nome è Gary Oldman, che tra La Talpa, la prova forse un po' sottotono, però quella del Cavaliere Oscuro in Ritorno, più che altro perché sebbene sembra che gli venga dato più spazio, non lo so, alla fine è un po' un casino il Cavaliere Oscuro in Ritorno da questo punto di vista, non si capisce bene chi è il protagonista e chi no, però lui fa sempre la sua porca figura alla fine della fiera. E quindi questi due, non mi ricordo se ha partecipato anche a altri film, ma mi pare di no. Lawless. Ah, è Lawless che però non ho visto. Ma guarda che il protagonista è quello con la maschera, Alessà. Oh, Dio! Madonna, tutto. Di... Guarda, si chiama Batman il film. Bane. Ah, no, è vero, c'è pure la gatta. No, c'è pure la gatta, vedi che c'è confusione, pure tu c'hai confusione. Poi... terzo nome, ma non in ordine, perché secondo me questo nome va dritto in testa alla classifica, è quello di, non so se lo pronuncio bene, Denis Lavan, il protagonista. Vedi, ormai la pronuncia francese la conosco a meno dito, insomma, vabbè. E grande protagonista di Holly Motors, e vabbè, anche qui insomma mi sembrava dovuta la sua candidatura, visto che nello stesso film fa qualcosa come 10-11 ruoli, da corpo e da vita a questo personaggio che è il Monsieur Merde, senza dire una sola parola, creando un linguaggio ex novo e con la sua gestualità fantastica, per poi passare con disinvoltura, non lo so, al padre di famiglia che rimprovera la figlia perché lei non crede in se stessa, per passare di nuovo alla vita dell'economista, insomma, tanti ruoli, un solo attore fantastico, un duetto con Kylie Minogue che rimarrà nei annali del cinema, e bravo, bravo, bravo. Complimenti, non capisco perché non è stato premiato con... Dov'è che è stato presentato Holly Motors? A Cannes, la prima volta, poi ovunque, Locarno, Torino. Non fu premiato nemmeno da Denis Lavant, mi sembra. No, non se lo filarono per niente. E vabbè, insomma, mi sembra una grossa ingiustizia. Il quarto nome è il grandissimo Luis Tosar, protagonista di Bad Time. Lui è gigantesco, ma ho candidato lui giusto per metterci in queste nomination un pizzico di Bad Time, che trovo che sia un film veramente eccezionale, un thriller hitchcockiano di cui abbiamo anche parlato largamente nella puntata dedicata. E niente, lui l'avevo già apprezzato tantissimo nel ruolo di mala madre, come non farlo in Cella 211. Qui si conferma grande attore, quel sorriso sul finale è squisito nel suo essere inquietante, e quindi Luis Tosar è il mio quarto nome. Madonna, tutti me li ha copiati, tutti, tutti. Pezzo di merda, basta, io non ne vado, basta. Allora, tocca a me. C'è amore. Che schifo, mamma mia, che sono venuto a fare oggi? Mi sono vestito, mi sono lavato, per niente. Vabbè, sì, primo io l'ho messo perché qui un criterio c'era, almeno la prima posizione, Denis Lavant, che, cos'altro devo dire, è la poliedricità, il dinamismo, l'eclettismo, è... sembra facile promuoverlo perché fa tanti ruoli, ma li fa benissimo, per cui è giusto. E poi una cosa importante che mi veniva in mente vedendo The Master, la fisicità, cioè adesso sembra un po' che il corpo, la mimica siano un sostituto della recitazione, no? Molti stanno fermi perché la recitazione è la voce, l'espressione, cioè che si mette un po' da parte il fisico. Invece poi vedi attori come Joaquin Phoenix in The Master e lui qui e dici cacchio, ma il corpo è una cosa stupenda se sai usarlo nel modo giusto, perché non è una recitazione di bocca, è un volto, una maschera, è un corpo, è pazzesco. Sì, poi ho messo anch'io Gary Oldman, perché più che altro è un ruolo sottotono, è difficile spiccare quando devi essere una nullità. Invece lo smiley di La Talpa è stupendo nella sua mediocrità, di nuovo. È pazzesco, davvero. È quel finale, senza spoiler, quel primo piano su di lui, quella carrellata che si allontana, lui inquadrato in questo posto, in questa stanza chiusa, l'isolamento, l'allontanarsi da tutto e da tutti, il non essere nessuno anche quando sei il capo. Nel senso, la pacatezza che diventa un'arma. Era giusto nominarlo, ed è bravissimo. Poi, ecco, almeno uno diverso, vabbè, me lo lascio per ultimo, quello diverso, Matthew McConaughey di Killer Joe, no, non è l'ultimo, che l'ho detto lo stesso, in Killer Joe, gliel'hanno cucito addosso il ruolo, come ha già detto qualcuno, però cacchio, quando non daresti una lira a questo cane di attore, te ne esce con questa cosa pazzesca, in un film che è tutto merito del film, probabilmente, però... Non avrei mai detto un giorno, cazzo, quanto ci sta bene qui Matthew McConaughey, e me lo ricorderò, anche questo non l'avrei mai detto. Soprattutto per il film, ma lui è bravo, e questo lo fa benissimo. Viscido, schifoso, spaventoso, quando mai, è bellissimo. E poi visto... fra parentesi, anche in Magic Mike non è che faccia una brutta figura lui, No, non l'ho visto, ben per... Ah, non l'hai visto? Buono... No, non ero rifiutato. No, comunque... Ci metto pure quello, dai, ce lo aggiungo io. Forse sono i ruoli il suo problema. Non è un attore versatile, questo non arrivo a dirlo. Però quando gli dai qualcosa che un minimo gli stia vestito bene addosso, guarda cosa ti combina, che cacchio. Quando fa il viscido ci sta. Sì, forse è uno stronzo, questo lo fa così bene. Probabile. È un altro stronzo, ma magari lui è un tenerone, lui Tosar, che per la seconda volta fa un personaggio disgustoso, ma questo è molto peggio, è il peggio del peggio. Se Joaquin Phoenix è un personaggio sgradevole, questo è l'apice, è finto, la sua forza è proprio nella finzione, è una perfidia costruita a tavolino, impensabile nella realtà, però ha quella faccia, quel look, anche quello troppo studiato, però gli sta così bene, la pelata, i capelli da scemotto, il neo, il sopracciglione, probabilmente lui, ecco, l'hanno solo dovuto imbruttire un tantinello, perché non è un attore belloccio hollywoodiano, però è stupendo, ci mette tutta la cattiveria che ha dentro e lo fa davvero benissimo. Lo nomino anche perché comunque è un attore spagnolo che, la nazionalità che viene un po' ignorata, di solito. Poi lo fa Fassbender anch'io, un po' per tutti i ruoli, però non ripeto. Parte l'omino Focaccina. Sì, sì. Parte l'omino Focaccina Banderas. Ah sì, madonna. E quindi, sono 5, sì. Ok, arrivo che sto scrivendo. Vabbè, ma scusa, avete fatto tutto uguale, ma mettetevi d'accordo, non lo so. Io tutti diversi. No, non è vero. Lavan, anch'io, non aggiungo altro, insomma, avete detto tutto. Poi un premio praticamente alla carriera da pazzo che ha avuto e che sta avendo, a Michael Shannon per Take Shelter, che... È bravissimo, insomma, vabbè, ormai appunto fa sempre quel ruolo lì, fa sempre il pazzo, sembra troppo premiarlo, però a me piace ogni volta. Quando magari proverà a fare una bella commedia, vedremo se è versatile, però per ora lo premio. Poi Jean-Louis Trintignant per Amour, l'ho visto! questo è un premio di coppia, quindi spoilerò già una delle attrici, perché Trintignant insieme a Emmanuel Riva sono una coppia strepitosa, non fanno granché, sono praticamente se stessi, sono degli anziani, hanno una vita, la vita di un anziano in quelle condizioni, con un amato che sta per morire, però è come il cinema di Haneke, tutti e due recitano in un modo così vero, così doloroso, che bravissimo, bravissimo Trintignant. E poi, secondo me, l'attore dell'anno, vabbè, insieme a Lavan, Aniello Arena per sia Reality che Cesare deve morire. È straripante. Ma dov'è il Cesare deve morire? Infatti questo me lo so chiesto pure oggi. Sì che c'è. No. A parte che quelli sono i detenuti di un carcere diverso in cui lui non sta. Ma perché l'avevo letto allora? Aspetta. Non lo so, non è lì. Vabbè, fa niente. Sì, ma comunque è meritato. Non è che perché è stato in galera lo dobbiamo appunto, mettere in ogni film. No, ma io... tutti in cella 211 è stato bravissimo. No, ma stavo pure pensando, ma ce n'è uno che gli assomiglia? Non mi sembra. C'è il protagonista, però no. Boh, non lo so. Allora mi sono sbagliato. Il cast davanti, Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Acuri, Antonio, non ce n'è, no. Vabbè, comunque io lo metto. E beh, è stato bravissimo anche in Cesare deve morire e non lo si vede mai. Cioè, è una presenza che la senti proprio. Vabbè, in Reality è bravissimo a fare lo scema, quello ossessionato dal Grande Fratello, ma poi anche quando diventa proprio malato davvero è bravissimo. Forse è aiutato tantissimo dalla regia di Garrone, però grande Arena. E allora adesso Lello. Passiamo... Lello? Sì. E allora adesso passiamo... Volevo precisare che non è, questi due attori che hai citato, Shannon e Arena... erano anche nella mia, solo li ho dovuti far scalare, perché effettivamente era giusto nominarli. No, volevo solo precisare che sono due performance che avevano colpito anche me, avrei voluto premiare anche loro, però insomma cinque è quel che è giusto è giusto. Le donne di Alex Dir. Ecco, ma come dice Intrinseco, insomma per gli uomini c'erano tante nomination possibili, ma anche voi avete trovato difficoltà a trovare donne valide quest'anno o sono l'unico che... Trovare donne è sempre un guaio. Ecco qua, no, non equivocare. Non equivocate, ragazzi. Sì, vabbè, un po' sì, dai. Più che con gli uomini, sicuramente. Cioè, io alla fine ne ho nominate due, ma la seconda proprio l'ho presa alla larga. Proprio, guarda, la prima è Marion Cotillard, assolutamente. Perché ha partecipato in un importante blockbuster e perché in Un sapore di ruggine rossa è meravigliosa. Meravigliosa. Ma l'hai visto poi? Bastardo. Veramente io l'ho visto prima di te. Ma se abbiamo fatto la puntata poi non ne avevamo parlato in puntata? Non ne avevamo parlato. Non ne avevo parlato. Ecco, perché infatti non mi ricordavo che l'avevi visto, madonna. Io l'ho visto alla grande, l'ho visto. Bravo. E quindi vabbè, che dire della Cotillard? È fantastica, riesce a farti sembrare bella anche Firework di Katy Perry, insomma. È fantastica questa donna. È chiavabile anche senza gambe. Sì, anche è vero, è verissimo. Ma è veramente chiavabilissima. Grande, grande Marion Cotillard. E la seconda nomination, presa proprio alla larga, è per Judi Dench di Skyfall. Perché insomma, in questo ultimo episodio di James Bond, al suo personaggio viene data un'importanza più centrale rispetto a che in passato. C'è anche questo rapporto quasi madre-figlio con 007, e lei offre sempre una grande prova attoriale, ormai alla veneranda età di 1500 anni continua a sformare performance degne della sua carriera e del suo nome, e perciò ho pensato che fosse degna della mia nomination. Ecco, quindi le mie due sono queste qui, non ho molto altro da dire perché non lo so, vado sempre un po' in difficoltà, come so riconoscere i bravi attori con le brave attrici ci metto è un po' più difficile per me. È un sessista. Sì, no, non è una questione di sessismo, è proprio che, boh, non lo so, magari anche il cinema è un po' sessista, perché poi se andiamo a vedere di film quasi prettamente solo maschili ce ne sono di più che rispetto a quelli femminili, insomma. È il cinema che è sessista, non sono io. No? Sì. Sei un pervertito. Ma va. Vai. Vado? Vai. Vabbè, ancora una volta mi hai dovuto rovinare tutto. La mia prima e più sentita è Marion Cotillard. Dai, la prossima la dici prima tu, capito? No, basta. Sì, soprattutto... il ruolo di spicco è quello di Un sapore di ruggine e ossa, non tanto solo perché è brava, ma anche perché insomma è un ruolo tosto. Insomma, c'è il sì, la situazione che psicologicamente probabilmente per un'attrice è più impegnativa di quello che sembra. Appunto, poi recitare in questo modo, imbruttirsi in un certo senso, denudarsi, insomma, sembra banale. Una grande attrice fa le scene di nudo, non le fa, insomma, è comunque essere a suo proprio agio col suo corpo. E che corpo, eh? Io poi la premio più che altro la simpatia, perché sono innamorato da sempre, anche quando faceva Taxi. Non so se vi ricordate, era la ragazza del protagonista. Io se l'ho sempre adorata. Poi ha fatto il film sulla Piaf. È stato amore, anche se era imbruttita come la Piaf negli ultimi anni. Io l'adoravo e l'adoravo. E poi da premiare anche per il ruolo nel Cavaliere Oscuro. Ricordiamo una delle sue scene, la più parodiata di YouTube dai francesi. Non posso dire qual è perché è spoiler, ma chi ha visto il film capirà qual è. Una scena presa per il culo a tutto tondo. E poi la seconda è un'altra, più che per i meriti effettivi, perché la amo pazzamente, è Jessica Chastain per Take Shelter, e qua l'ho dovuto mettere, un attore di Take Shelter, e anche per un film insignificante come Lawless. Insomma, ovunque sia stata, io la nomino, perché è stupenda, ovunque c'è, mette bellezza, anche se non c'entra nulla col film. Penso sia una di quelle attrici che, come per esempio Eastwood o altri, basta la presenza e trasmettono qualcosa. Sarà la bellezza, sarà il fascino, anche quando fa una cosa come in The Help, il suo personaggio è adorabile. Imbiondita, con le poppe stragonfie e la vocina da scema, non so, l'adoro, può fare quello che vuole. È un'altra che adoro e che magari non merita di star qui, ma ce la voglio mettere lo stesso, è Noomi Rapace, che ha fatto un bel po' di roba anche quest'anno. Adesso mi vengono in mente Baby Call e Prometheus, ma se non sbaglio c'è anche qualcos'altro. Imperativa, Hollywood se l'è comprata, io sono contento perché mi piace un sacco. E sì, vorrei che facesse meno blockbuster, non perché siano blockbuster brutti, perché Prometheus, lo sapete, mi è piaciuto, ma perché comunque in un film come Uomini che odiano le donne, il primo, secondo me fa un ottimo lavoro e non ha nulla da invidiare alla performance di Rooney Mara. E anche perché insomma fare un ruolo del genere con la ragazza bella e la bellezza classica è facile, farlo fare a una donna come Noomi Rapace, che a me piace, è bellissima, è di una bellezza diversa, ha un valore di tutt'altro valore, insomma. E poi anche qui ho un po' tirato per le lunghe, più che altro perché mi avevano colpito quelle due o tre, poi andando a cercare ho faticato un po', però ho voluto nominare più che altro per ripicca Glenn Close per Albert Nobbs, che altro perché anche qui è un ruolo insomma che non tutte accetterebbero, soprattutto come l'ha accettato lei nel Monco. Poi ne avevo parlato, l'interesse per il progetto, insomma il coinvolgimento a tutto tondo. Poi anche questa cosa di annullare la propria femminilità, come fa il personaggio del film, è notevole. Lei poi insomma meritava probabilmente più, non so se avrebbe meritato l'Oscar, però sempre per il strip io ho cominciato a provare antipatia feroce, quindi volevo ribadire questa cosa e nominarlo. E ho finito. Anch'io mi accodo al fan club di Marion Cotillard. L'ho vista anche in Piccole bugie tra amici. E vabbè, è un film corale. Lei ha lo spazio che hanno tutti gli altri, però è più che altro un premio per Ruggine e Ossa. E comunque per un'annata in cui ha fatto tre film, forse anche di più, non so. Almeno in Italia sono arrivati questi tre. E vabbè, bravissima, bellissima, e avete detto voi. Poi l'ho già detto, Emmanuel Riva di Amour, per gli stessi motivi di Trintignant. E poi Min Sojo, che è la protagonista, la madre in Pietà, perché anche lei è una prova dolorosa, anche la sua, molto sentita, molto, molto brava a gestire le emozioni, quindi meritata. E sempre rimanendo in Asia, anche qui anch'io ho fatto un po' di ci ho messo un po' a decidere. Avrei premiato Il sorriso di Noomi Rapace, ma non lo so, non ho voluto metterla. La Chastain anche a me sta simpaticissima, la Close l'avrei messa per il suo ruolo, però alla fine ho messo Diani Ip, che è la protagonista di A Simple Life. Anche qui siamo dalle parti di Emmanuel Riva, cioè fa un'anziana, ed è, non lo so, è anche lei bravissima sia nelle parti un po' più divertenti sia quelle più drammatiche. E insomma l'ho messa come quarta, però ce n'erano tanti, insomma, alla fine ha vinto lei, ha preso lei l'ultimo posto. E a questo punto che volete fare? Prima la flop 5 o la regia? Io dico prima regia. Prima regia? E allora Alex Dir, o se volete scambiarvi, visto che... ma tanto li dite uguali, che vi frega? Ma mica tutte. Vabbè dai, intrinseco stavolta. Quante erano per la regia? Non fate 4? Sì, sì, va bene. Ok, no, non mi ricordavo se anche qui erano 5. Vabbè, anche qui non è una sorpresa, non ne ho già parlato, è un primissimo posto, ma si può anche cambiare con il secondo e il terzo, La talpa di Thomas Alfredson, che ormai si è capito che probabilmente finirà anche nella mia top 5, magari è una sorpresa, finché riguardo di nuovo e adoro, qualcuno l'ha massacrato perché è noioso, perché manca di ritmo, perché non si capisce. Io trovo che abbiamo fatto un lavoro spaventoso da tutti i punti di vista. L'avrei messo anche come miglior sceneggiatura, perché è difficile adattare in un film, tra virgolette, così breve, un romanzo così complesso. Però la regia probabilmente spicca tra tutti. Alfredson aveva già fatto quel filmone di Lasciami entrare, l'originale ovviamente, e già lì si vedeva il tocco nordico, ma stupendo. Poi gli danno in mano un film così, ti aspetti cos'è, una produzione, diciamo una grossa produzione, si è venduta, no, fa un lavoro stupendo, questo pedinamento dei personaggi, ma più che altro non stare addosso alle facce, agli sguardi, alla spia, qual è la spia? Questi primissimi piani carrellate sulle facce, sui ricordi, la cena di Natale, non so se era un Capodanno, non ricordo, è davvero malinconico, è struggente, eppure è un film di spionaggio. È davvero stupendo, un lavoro magnifico. Questo film meritava premi dappertutto, meritava molta più visibilità, non capisco perché sia passato, non dico in sordina, ma così, dietro a film che sì, magari hanno dietro nomi più antichi e più grandi, ma meritavano un po' meno attenzione. Poi, subito dopo, ma non per importanza, Cosmopolis di Cronenberg, che gira un film in una limousine ed è un film allucinante. Non so, non mi ricordo quanti anni ha, è il mio regista preferito, ma il dato biografico non lo seguo mai troppo. Ha i suoi anni, ha i suoi film sulle spalle e secondo me non perde un colpo, davvero pazzesco. Ci chiude dentro questa macchina, ci fa uscire ogni tanto e sembra che non siamo usciti, in realtà siamo ancora dentro uno spazio chiuso e assurdo, fuori dalla realtà. Io lo adoro, non so che altro dire. Poi non so, li dico in quest'ordine, ma poi magari se è una questione di nomination li cambiamo. Anche qui The Lords of Salem, perché più che altro è un segno di maturità, secondo me, è un film personalissimo, è una prova che un regista come Rob Zombie, su cui magari non scommetteresti perché sia un creativo, ma invece dimostra di essere anche un tecnico, uno che può prendere questo mezzo con cui non ha nulla a che fare e farne qualcosa di più, crescere soprattutto come artista. E poi per semplicità più che altro, ma ho voluto mettercelo, Moonrise Kingdom, perché appunto è semplice, ma sembrano delle figurine degli anni 50. Scusa, di il nome, vai, comunque Anderson, sì. Sì, di Anderson, di Wes Anderson, perché davvero crea un album di figurine, queste carrellate, queste gru, queste panoramiche dentro la casa, fuori dalla casa, nel bosco, è davvero... Sento una specie di eco. Sì, sono gli UFO. Boh, vabbè. A casa di Maimonto. Un eco stranissimo deformato. E davvero, sì, appunto, mi sembra un album di vecchie foto e di fotografie, i colori saturati, bellissimo da vedere. Poi è bello in generale, l'ho voluto mettere qui perché l'ho escluso altrove, e poi perché io quando ce facevo anche qui. E via, ho finito. Vai, di gli stessi 4, Alex Diro. No, per una volta forse... Vedi, non dovevamo invertire. Sono tutti diversi. Che cazzo. Allora, partiamo... Allora, il primo, secondo me, è Holy Motors. Perché... Ma dite il nome, siamo alla regia. Vabbè, Leo Scarax, no? Scarac. Si pronuncia così, Scaracchio. Leo Scaracchio per Holy Motors, perché è un progetto ambizioso e tenere le fila di tutto quello che succede su schermo era molto difficile, lui ci riesce benissimo niente, è un po' il mio film che si ripete ovunque, Holy Motors, ma insomma l'ho amato alla follia. La poliedricità dei ruoli di Denis Lavanta, diciamo che si ripercuote anche sugli stili di regia, quindi vediamo tante, tante scene prese da film diversi, poi questo finale con le limousine che è fantastico, insomma. Spoiler! Spoilerissimo, l'ho adorato anche sotto questo punto di vista. Geniale. Grande lavoro, anche l'inizio dove l'attore o il regista, mi pare sia proprio Leo Scarazzo, quello che si vede all'inizio, che sfonda la quarta parete, insomma. Grande, grande Holy Motors. Poi, nomination, diciamo, come dire, un po' inaspettata, forse quella per Skyfall, ovvero per la regia di Sam Mendes, perché allora, innanzitutto era un regista che... Sinceramente io non mi aspettavo potesse fare così bene con un genere che apparentemente non gli appartiene, che è quello insomma del thriller d'azione. E invece ha fatto un grandissimo lavoro. Forse i difetti di Skyfall vanno ricercati più nella scrittura, perché magari ci sono delle lungaggini che non funzionano anche nel finale, però per quanto riguarda la regia, il modello di ispirazione è Nolan, e visto anche il risultato di quest'anno di Cavaliere Oscuro e Ritorno, che a me è piaciuto ma comunque ha dei difetti anche narrativi, registici, trovo che tra virgolette l'allievo abbia superato il maestro, nel senso che comunque Sam Mendes ha fatto un film girando alla Nolan e ha fatto un lavoro forse anche migliore di Nolan, quindi entra di diritto nella mia top 5. Poi Reality di Matteo Garrone, quindi candidatura, sì, come dici tu dovrei dire prima il nome del regista e poi il nome del film, però vabbè, ormai ho preso questo andazzo, e quindi Garrone per Reality, perché come abbiamo detto anche in sede di recensione durante il podcast, è un film particolarissimo da questo punto di vista, girato tutto a mano, lo sguardo del regista si fa man mano più claustrofobico, con il procedere della follia del protagonista Aniello Arena, che è stato candidato dal Monco, tutto il resto si fa sfocato, insomma è un film dal punto di vista tecnico abbastanza ardito, forse quello più sperimentale visto in Italia quest'anno. Argo, ovvero Ben Affleck per Argo, è la mia quarta candidatura. Vale un po' il discorso fatto per Mendes, ad Affleck non abbiamo mai dato tanto credito, poi è arrivato Gone Baby Gone ed era un buon film, è arrivato The Town, anch'esso un buon film che ti tiene sulle spine, arriva alla fine con Argo e attorno a una storia che apparentemente non sembra al cardiopalmo riesce comunque a costruire un film che invece ti incolla alla sedia. Vale un po' lo stesso discorso fatto per la sceneggiatura, insomma Argo è un film scritto e diretto veramente in maniera certosina. Quinta e ultima candidatura per Odiard, e per la regia di Un sapore di ruggine ed ossa, che è un film estremamente fisico, riprende questi due corpi estremamente diversi, uno che richiede insomma la massima delicatezza, l'altro che invece è una furia, insomma è una belva umana, e riprende con questo suo stile, anche lui con la telecamera a mano, uno sguardo che anche qui si fa sempre più vicino ai due protagonisti man mano che imparano a conoscersi, man mano che entrano in sintonia, e un grande storia d'amore anche se non sembrerebbe, e un gran bel film, un film di fatto di corpi, insomma mi è piaciuta veramente tanto la regia di Odiard. E quindi detti i miei cinque nomi, passo la palla al Monco. Bravo. Allora, io dico anch'io Garrone per i motivi che avevamo già detto anche in puntata, sia quelle riprese claustrofobiche, sia quei movimenti, quelle panoramiche a 360 gradi all'interno degli edifici, tipo quando tornano tutti a casa dal matrimonio e sono lì che si svestono. Sì. Bellissima, appunto, ne avevamo già parlato. Poi anch'io Wes Anderson, vabbè, ne abbiamo detto nell'ultima puntata, è bellissimo anche qui, non fa panoramiche, ma si muove di 90 gradi la macchina da presa, e poi tutte quelle riprese simmetriche, pazzo, è bellissimo il suo modo di incorniciare quelle immagini, mi fa impazzire ogni volta. Poi Haneke, perché il solito, cioè il detto dei festival, ogni volta che partecipa Nicky va messo nelle, in qualsiasi sua categoria. Chi è? No, niente. E soprattutto perché lui ogni volta non fa cinema, ma fa l'anticinema, cioè è praticamente documentario quello che lui fa. Anche in Amour non mette niente di cinematografico, l'unica cosa su cui si può discutere, senza spoilerare nulla, è la scena col piccione. Infatti qualcuno l'ha commentata, ha dato diverse chiavi di interpretazione, però si mette solo a raccontare la storia senza impreziosirla con niente, e basta quello. La sua regia è documentaristica, e bah, ogni volta è così freddo e semplice che me ne innamoro. E poi l'ho messo all'ultimo, proprio all'ultimo secondo, Nuri Bilge Ceylan per C'era una volta in Anatolia, perché ha fatto un film di 2 ore e mezza su questi poveri poveracci che vanno nel bel mezzo della notte, appunto in Anatolia, nel nulla. Sembrerebbe un film che ti fai due palle così, invece no, è scorrevole, è inquietante, ma anche trascinante. Mi è piaciuto tantissimo, e metto anche, vabbè, la fotografia che avevi già detto te, la voglio citare anche qui, visto che ho l'occasione, perché anche a me è piaciuta tantissimo. Quindi questi sono i miei 4. E allora, ecco qua, i peggiori dell'anno. Sì, prima i peggiori, dai. Ma sì, lasciamo in dopo le risate, vabbè, no, va bene anche io. No, adesso, dai. E siccome credo che saranno abbastanza diversi, vai di nuovo Alex Diro per primo, dai. Allora, vediamo un attimo, perfetto. Vado io o va prima in Vai, vai, vai. Vado io. Allora, gli stessi, guarda, eh? Allora, partiamo dalla cima, ovvero dal meno peggio, che vabbè, comunque sono tutti film pesantemente insufficienti. Allora, il meno peggio dei 5 è Dark Shadows di Tim Burton, e anche qui ne abbiamo parlato ampiamente nella puntata del podcast dedicata. Fatto sta che, insomma, alla fine si finisce, del Burton recente si finisce sempre di parlare di ridondanza, di film esteticamente tutti uguali, di personaggi privi di mordente, di un Johnny Depp perennemente col cerone in faccia, che fa sempre le solite mossette, che fa il freak, quindi tutto il discorso vale anche per Dark Shadows, l'ennesimo film di un autore che ormai sembrava alla deriva, che si era perso, insomma, in questo manierismo folle, in questa autoreferenzialità che non portava da nessuna parte, e che poi, aperta parentesi, si è risollevato dalle ceneri con Frankenweenie, di cui parleremo fra una settimanella circa, 2 settimane, e quindi questo è il mio 5º flop. Al 4º posto ci mettiamo Biancaneve il cacciatore, che vabbè, a parte la storia di Kirsten Stewart che si è bombata il regista, o il regista che si è bombato Kirsten Stewart, non si è ancora capito come siano andate le cose. Per il resto il film è veramente poco interessante. Innanzitutto è già sbagliata la premessa, perché dire a Charlize Theron che Kirsten Stewart è più bella di lei non funziona. E poi è brutto anche il film. Vorrebbe essere anticonvenzionale, però poi fa innamorare Kristen Stewart del cacciatore. Perché? Perché il cacciatore è Chris Hemsworth. Ok, insomma, non funziona così. Se vuoi farlo anticonvenzionale, il cacciatore lo fai fare a Renato Pozzetto e la fai innamorare di Renato Pozzetto. Ma cioè, sono tutti buoni a innamorarsi di Chris Hemsworth, no? E niente, poi il resto del film è veramente ridicolo. I riferimenti registici a Signore degli Anelli si sprecano. Vorrebbe esserci una grande battaglia negli ultimi minuti, ma invece è una scaramuccia tra gente in brutte armature, e quindi bocciato. Poi I Mercenari 2, qui è un misto tra dello schifo provocato dal film e comunque la delusione, perché a me sinceramente il primo Mercenari, con tutte le sue cose brutte che aveva, mi aveva divertito. Questo nemmeno mi aveva divertito. Anche qui ne abbiamo parlato ampiamente, c'è un cattivo chiamato villain, quindi non funziona, ma non funziona nemmeno tutto il resto. Si è voluto dare più spazio a gente che ormai campa con le stampelle e di conseguenza lo spazio per Jason Statham, per Dio non mi ricordo quello di colore, come si chiama? Terry Crews. Terry Crews, esatto, Terry Crews, che secondo me è una bomba. Io farei fare il film solamente a lui, invece qui passa il tempo a pulirsi le armi. E quindi il film si è rivelato un flop qualitativo notevole. Poi, secondo film più brutto dell'anno, dico che è Resident Evil 5, Resident Evil, Dio, com'era il sottotitolo? The Generation, una cosa del genere. Retribution. Retribution, The Generation, l'abbiamo aggiunto noi, insomma. Ne abbiamo parlato ampiamente. È tutta una degeneration. È tutta una degeneration, film brutto brutto brutto, sembra quasi un prologo di un film che dovrebbe venire, ma poi il film non arriva effettivamente, rimangono intrappolati in questa prigione sottomarina, che come ambientazione sarebbe anche suggestiva se non fosse per il fatto che fa veramente cagare su tutti i punti di vista, e niente... brutto, brutto, brutto, non, sinceramente manco me lo ricordo, l'ho rimosso. E quindi il film più brutto dell'anno, secondo me, è The Dutchman. Madonna, 5 su 5 ne ho prese, oh. Non me le aspettavo, ho fatto i pronostici sui tuoi top 5, questa era garantita. Vabbè, ma perché, come vi ripeto, i film brutti che voi mi dite che sono brutti, io li evito. Quindi solo quelli che ho visto di mia spontanea volontà. Dutchman era proprio sentita qualcosa. No, The Dutchman veramente, guarda. Film di Tony Cane. Brutto, un finto intelligente, ti spiega le cose 7-8 volte e te le disegna pure perché è un film alternativo. Vorrebbe spiegare la realtà di classe, ma non ci riesce. Vorrebbe rappresentare il distacco quando invece rappresenta tutt'altro. Magari si sente la necessità piuttosto del distacco, ma non credo fosse questa l'intenzione del regista, dato che adesso sta girando, come aveva detto in Monco, Attachment, che dovrebbe parlare invece del contrario del distacco, quindi non, nemmeno lui ha le idee poi così chiare. E niente, è un film veramente un insulto all'intelligenza media dello spettatore, anche, a quel, anche di quella di chi vede cosa come i due soliti idioti, insomma. Nemmeno quegli spettatori se lo meritano, un film del genere. E vabbè, i miei sono questi, dai, intrinseco. Distacco più che altro neurologico, gli devono staccare la spina, questo Tony. Distacco della corteccia cerebrale. No, devono proprio staccare la spina, l'alimentazione. Vabbè, io ho fatto fatica a questo plot 5 perché c'era tanta roba e meritava, come tanti bellissimi film, davvero, è lottata fino alla fine, anche perché, poi, man mano che la dirò capirete perché, cioè, l'Italia ha un ruolo tutto speciale. Quindi si litigavano il posto i film italiani, non ho voluto metterceli tutti per dar spazio anche agli altri paesi, no? Noi pensano che parliamo solo male dell'Italia. E dunque, che faccio? Parto dal peggiore o dal meno peggiore? Dal meno peggiore, dai. Va bene, allora dal meno peggio è Di nuovo in gioco di Robert Lawrence. Non è così brutto, forse direte voi. È la cosa più inutile che potessero girare, e questa è la giustificazione. Mi fermerei anche qui perché... cos'altro c'è da dire? Hanno coinvolto Eastwood, hanno voluto fare la risposta a Moneyball, la risposta a una domanda che nessuno ha posto. Non è, l'ho detto, non è così brutto, non volevo mettercelo perché è proprio patetico, brutto, inutile, la storiella d'amore, la storiella sul baseball, ma il baseball che non vogliamo vedere, era meglio non vederlo come in Moneyball, è proprio una porcata. Forse sto esagerando, ma mi ha proprio infastidito come film. E poi magari ne discutiamo. Poi, subito sopra, ma a poca parità di merito, L'altra faccia del diavolo. Non ricordo il regista o i registi, se non sbaglio. Fanno schifo, quindi non stiamo a dargli troppo importanza. Fanno schifo, loro. L'avevo segnato in piccolo, William Brent Well. Non ne sono più di uno, è uno con tre nomi. Il triplo dello schifo. E qui, ma rappresenta tutta la corrente dei POV, quindi anche Paranormal Activity 4, Chernobyl Diaries, un po' tutti, ma questo più degli altri, perché intanto è appunto è il classico POV, ma questo è proprio nel senso che non ha aggiunto nulla, non ci prova nemmeno a portare una variante sul tema, non è l'assenza di intelligenza e di cinema. E poi perché molti dicono, ah no, manca il terzo atto, perché effettivamente si conclude bruscamente, e io rispondo, non è che manca il terzo atto, è che è proprio un film che non esiste. non l'hanno scritto, lì l'hanno girato, è un'ora e venti, credo, non neanche, un'ora e un quarto, un'ora e dieci, ed è proprio la cosa sbrigativa, proprio il finale di un Paranormal Activity a caso messo in coda a un film sull'esorcismo, e proprio non succede nulla, proprio è l'orrore, davvero, il vuoto cosmico, non capisco come si possa pensare di girare un altro POV così, è proprio, non, davvero, sì, il vuoto cosmico, terribile. Poi, terz'ultimo, qui era combattuta, perché volevo metterci bell'occhio, però poi mi perdevo questa magnifica coppia di film. Comunque, terzo, ma anche qui sono a pari merito, L'arrivo di Wang, dei Manetti Bros, che credo sia passato da nessuna parte, forse era uscito su qualche streaming legale, no? O ricordo male, vabbè. Insomma, i Manetti Bros fanno due film in un anno, io li ho voluti premiare tutti e due, perché sono davvero due registi, due brutti film, due candidature. L'arrivo di Wang è la fantascienza italiana, no? Quando negli anni 50-60 c'era Margheriti o Bava che faceva fantascienza, diceva, ecco, chissà come evolverà il genere, niente, nulla per 30 anni e poi arrivano i Manetti con questa cosa disgustosa e qualcosa di, non so, l'abbiamo visto io insieme il Monco e... non so, non saprei più neanche cosa ripetere. A parte le cose facili, la pessima computer grafica, che insomma è come sparare sulla Croce Rossa, ma è come se avessero preso un'idea e detto, ok, giriamoci un film. No, un altro intelligente avrebbe detto, facciamoci un cortometraggio. Perché pensare a una traduttrice che va assunta da ignoti per fare l'interprete a una persona asiatica che si chiama Wang e scopri che questo Wang è un alieno, dici wow. Quanto puoi scrivere su una cosa del genere, quanto puoi girare, e loro ci hanno fatto un film intero e purtroppo continua dopo questa premessa, è fantastico, c'è la citazione storica, la foto che è stata messa anche su Facebook, sul forum, questo alieno che senza spoilerare si rivolge a un personaggio chiamandolo brutta cretina e... No, sei proprio una cretina. Sei proprio una cretina, ho dimenticato la citazione, sei proprio una cretina, cioè io nei miei 24 anni di vita mai avrei pensato di vedere un film di fantascienza in cui un alieno con i sottotitoli dice sei proprio una cretina, cioè questa è la fine della civiltà occidentale e della cultura italiana, la morte cerebrale anche qui, è davvero una barzelletta, poi Fantastichini che urla all'alieno sei un mostro figlio di puttana, cioè davvero, Madonna mia, è incredibile, vorrei morire o andare in coma quando vedo queste cose, e quindi subito dopo Paura 3D, sempre dei Manetti Bros, abbiamo fatto anche la puntata, una delle prime se non sbaglio, la recensione è apprezzatissima perché quando si parla di merda accorrono, un horror, uno slasher, un thriller, non so cos'è, film italiano in 3D, uno dei primi, non so come sia il 3D, non interessa, era una cosa imbarazzante, i soliti borgatari messi lì per recitare, la solita schifezza, il fratello scrauso di Servillo che fa il cattivo, cos'era, la Cuttica anche qui, tra l'altro sì, attori che tornano, attrici femminili, se c'erano le flop five delle attrici, che loro a lei ci sarebbe stata, e davvero disgustoso, una sala piena di omosessuali e tutti ridevano per questa cosa imbarazzante, cioè, quando vedi un tuo parente che si ubriaca e si piscia addosso ti vergogni, e l'effetto è lo stesso quando vedi un film dei Manetti Bros. E quindi passiamo al top del top, Dracula 3D. Vabbè, era telefonata, mi spiace essere banale, ma quando la meni per anni con il maestro dell'horror, il maestro del brivido, che poi è Stephen King, non so come mai spostano questo titolo a uno come Dario Argento, e fa questa cosa, il Dracula 3D, un film colto e classico, secondo Gabriele Albanesi, secondo me è una porcata che abbiamo pagato anche noi, poco, sì, solito luogo comune, con i miei soldi, ma in questo caso fa davvero incazzare, perché fa schifo, va all'estero, la gente lo vede, dice, ah, gli italiani non solo fanno questa merda, ma pagano anche per farla. E poi si continua a parlare di Argento, del grande Argento, il grande maestro. Davvero, l'imbarazzo del paese. Non capisco perché la gente gli dia ancora soldi, perché ci sia ancora una cerchia di ammiratori che imperterrita lo sostiene, colleghi, raccomandati, paraculi. Insomma, è un business anche questo cinema del fare male. Terribile, quindi boh, tre posizioni per l'Italia, sarebbero state quattro, ma appunto ho detto, voglio tenere fuori quel piagnone di bell'occhio, almeno da qui, perché comunque c'è di peggio, però davvero, una situazione degradante per tutti. Eccomi, allora, siccome è molto simile, dico velocissimamente quelli che si sono andati molto vicino alla flop 5, cioè Iron Sky, Chained, Immortals, From Rome with Love, cos'era, To Rome with Love, quello l'ultimo di Allen, Woman in Black, Possession, Total Recall, Shark 3D, Mercenari 2, Contraband, Il Cacciatore di Vampiri, Chernobyl, Il Dittatore, Avengers e Ghost Rider. Ecco. Avengers anche, attenzione. Sì, sì, assolutamente. Duppalle clamorose. allora, prima di tutto quoto Alex Diro con Resident Evil Retribution, perché è il film meno film dell'anno, cioè non c'è una storia, sono 56 minuti di rallenti, 34 di riassunto delle puntate precedenti e 2 minuti di film più altri 6 di titoli di coda di testa, quindi è un film di 2 minuti, è terrificante. Come fai a ricordartelo? Cioè io l'ho proprio rimosso, mamma mia, c'è cioè, una memoria di ferro. Stavo scherzando, non erano numeri veri, comunque sì. No, vabbè, però in generale la cosa del rallenti all'inizio, sì, il riassunto delle puntate precedenti. No, è una cosa che mi sono scritto con un coltellino sul polso. Così squallido che te lo ricordi, scusa, il riciclo del materiale rallentato poi, madonna mia. E poi quoto invece da Intrinseco con la tripletta italiana, come fai a non metterla, sia i due manetti che sono dei maestri ormai, non solo fanno merda ma hanno anche creato Gabriele Albanesi e continuano a creare altre persone, o comunque se loro fanno film uno dice vabbè allora li faccio anch'io e la situazione non può che peggiorare in questo modo. E poi vabbè, Dracula, appunto l'abbiamo pagato noi. Qual è la differenza tra la pornografia e Dracula? Le sovvenzioni statali, come parafrasando Peter Griffin. E va bene, abbiamo già parlato anche di Dracula. Forse sì, il peggior 3D dell'anno, la peggior attrice dell'anno, Asia, e il peggior doppiaggio, nonostante sia un film italiano dell'anno, il peggior trattamento di un romanzo dell'anno. C'è tutto, c'è anche peggior regia, ma forse peggior regia no, i manetti se la giocano, comunque ok. E poi ultimissimo, Free Runner, di nazionalità sconosciuta, regista è, me l'avevo segnato, Lawrence Silverstein, l'ha selezionato anche il Frusciante, l'ho visto solo io, vero? Sì. Un'idea intrigante, ma totalmente buttata nel cesso, sembra fatto da dei ragazzini con YouTube, insomma con le macchine, col cellulare anzi, è messo su YouTube, terrificante, soprattutto alcuni dialoghi e gli attori maschili qui sono stravincono, riescono a battere persino i coatti di Paura 3D. Meno male che adesso passiamo ai migliori dell'anno. No, comunque io vorrei precisare che i film quelli che avete detto voi peggiori, venivo sempre da voi a chiedervi, ma scusate, ma questo com'è? Voi mi dicevate, guarda, è brutto, allora io non me lo so visto, perché Paura 3D e L'Arrivo di Wang ne avete sempre parlato malissimo, quindi li ho evitati. Dracula 3D c'avevo un po' di curiosità per il fatto che fosse, cioè, volevo farmi quattro risate, però alla fine non l'hanno passato sui canali non convenzionali, quindi non l'ho visto. E gli altri quali avete nominato? Che Freerunner. Freerunner proprio lo ignoravo, l'ho sentito la prima volta nominato da Frusciante nella sua top flop del 2012. Sì, ma io l'ho anche recensito, eh. È vero, è anche recensito? Sì, sì. Mi era sfuggito questa cosa qua. No, pensavo cosa? Quello di Joseph Gordon-Levitt invece c'ha un titolo simile. Ah no, Premium Rush, Free Runner, sì, insomma, stiamo là. E quindi per questo ho evitato un sacco di film. Voi ne avete visti un sacco brutti. Ecco, sì, infatti, però questi sono i brutti che abbiamo visto. È ovvio che c'è forse di peggio, però sì, chiaramente sì. Non siamo andati a vederli, non siamo il Frusciante, ecco. Vabbè, però ci difendiamo bene, a 10 ci arriviamo facilmente. Sì. Vabbè, allora dai, conduttore, e andiamo. Io ti ho detto, siamo già passati ai migliori. Tra l'altro, siamo già passati ai migliori. Sì, un'ultima, un'ultima cosetta. Nella regia volevo solo menzionare alla veloce Canté o Canè, adesso non mi ricordo bene, quello di Piccole bugie tra amici, perché l'inizio sono 3 o 4 minuti di un piano sequenza meraviglioso. Il film non è un granché, però vi consiglio di guardare quei primi 3 minuti per quanto riguarda la regia. Vai con i top 5 del 2012. Vai, intrinseco. Vado io allora? Sì. Anche perché mi sa che qua qualche ripetizione. Sì. No, vabbè, cioè, d'un paio ci giurerei. Va bene, anche qui ordine sparso, ripeto, non sono riuscito anche all'interno delle classifiche a dare un ordine, è complicato, anche brutto, insomma... ho salvato quei 5, già mi sembra un atto di cattiveria, quindi vado in ordine sparso. Cosmopolis di Cronenberg, uno dei miei registi preferiti, l'avrei messo probabilmente comunque, ma è, a mio avviso, l'ho già detto, un filmone, un'ennesima conferma, non che ci fossero dubbi per me. È un adattamento, qualcuno ha detto, molto fedele, pedissequo del romanzo di De Lillo. Questo non lo so. So che comunque era un romanzo particolare, era difficile adattarlo, lui lo fa in una forma particolare, magari indigesta per qualcuno, per me non l'è stato, e nella forma comunque lo è un cinema diverso, a cui magari lo spettatore medio sembra, non vorrei evitare di usare queste espressioni, ma insomma è vero, l'ho visto in sala e l'ho visto altrove, non è preparato, cinema da monolocale, insomma di spazi chiusi, di staticità. Il movimento è un altro, magari lo crea la macchina da presa quando serve, quindi non sempre serve, infatti non c'è. È un film difficile di un regista che comunque si era, non dico venduto assolutamente, però si era dato a un cinema un pochino più digeribile. Ecco, i due, La promessa dell'assassino e History of Violence, erano parte di un suo percorso, però erano un tipo di cinema che può piacere anche a un pubblico più ampio, mi sembra di fare un torto a nessuno dicendo questo. Anche a Dangerous Method era più convenzionale, tant'è che molti spettatori appunto hanno detto caspita, che questo è Cronenberg, vado a vederlo, ti trovi davanti Cosmopolis e bam, non è proprio quello che ti aspettavi. Invece per me lo è stato, è terribile, un film, un romanzo che non è recente ma è attualissimo, il film è attualissimo, che si parla di economia, di crisi economica, di spersonalizzazione, di follia, e in questi giorni più che mai sembrava una cosa che potevo dire quando il film è uscito, ma è ancora vero, è ancora attualissimo, la follia c'è ancora, siamo davvero immersi in quel caos che c'era fuori dalla limousine o dentro a seconda dei casi, quindi niente, non mi fermo qui per questo film. Poi l'ho messo qui, poi lo escludiamo per la nomination, The Lords of Salem di Rob Zombie. L'ho visto a un festival, quindi comunque nell'anno e ufficialmente, per chi come Polita chiedeva le date, questo dovrebbe uscire ad aprile. In America sicuramente, in Italia dicono di sì, poi se esce come The Master è un altro discorso, però comunque sembra che sia ufficiale. E l'abbiamo visto a Torino, l'ho visto a Torino, e, insomma ne ho già parlato per quanto riguarda la regia. È un film unico, non è un horror, è qualcosa che trascende tutto, è una prova di maturità registica, tecnica e musicale anche, è davvero stupendo secondo me, non vedo l'ora di rivederlo, sembra quasi che con questo film l'horror debba finire, perché si è arrivato a un punto di rottura, non c'è più nulla da dire, poi arriva questo film che non è che apre delle porte, le chiude, perché... rompe le catene dell'horror e va oltre, non in altri generi, proprio oltre tutto, pazzesco, non so che altro dire. Questo vale anche per il film successivo, Holy Motors, di Leo Carà, ne abbiamo parlato tantissimo in questa puntata, anche in quella della recensione, che questo non so quando lo vedrete, è passato nei festival, qui non credo ci sia neanche una data, credo sia prevista forse un'uscita in Blu-ray all'estero, per cui non do date di cui non sono sicuro. È anche questo un cinema di rottura al massimo, di scassamento proprio. È una prova attoriale pazzesca, un film che davvero lascia esterrefatti, perché è cinema sul cinema sul cinema, è un triplo meta cinematografia, una tripla meta cinematografia, è una cosa a cui nessuno era preparato probabilmente, non davvero ci ha svegliati da una sorta di torpore da spettatori troppo abituati a certi stilemi, a certe forme certe formule. Penso che sia così particolare, così unico, così coraggioso che a prescindere dal, insomma, i meriti dell'anno in sé, dell'anno singolo, ma in generale va a oscurare molte delle cose che sono state viste nel decennio precedente. Insomma, probabilmente, no, perché non l'hanno visto in molti, ma se avesse avuto una distribuzione più equa, se verrà visto come merita, secondo me entrerà negli annali, perché non so, è come un Tree of Life, è roba che esce una volta ogni lustro, una volta ogni eclisse, non lo so, è roba che andrebbe esposta nei musei. Poi, sempre senza ordine, per cui non c'è una gerarchia, La talpa di Thomas Alfredson, ne ho detto già benissimo in tre o quattro categorie diverse, io lo adoro, continuo a rivederlo, sarà lento, sarà noioso, ma è pazzesco, è davvero una delle regie più belle che ho visto negli ultimi anni, un film difficile, perché è una storia difficile da mettere insieme, da far quadrare, da vendere a chi poi va a vedere un film di spionaggio aspettandosi, che ne so, James Bond, quando non è assolutamente così, è il patetismo, è poi quei filtri, quelle musiche, quel finale struggente, io davvero mi commuove, non è un film che vuole essere toccante, forse sì, nemmeno l'idea del romanzo non era questa probabilmente, ma il film ci riesce perfettamente, è più bello dell'uomo che viene dal freddo, cioè la spia che viene dal freddo, davvero la spia demolita, la spia ridotta a un esserino inutile, la moglie lo tradisce, gli amici lo tradiscono, non c'è nessuna verità e lui si fa strada come può. Gary Oldman, memorabile, un cast enorme, Toby Jones, Colin Farrell, Colin Firth, non ricordo chi altro, comunque un cast bellissimo, un film stupendo, sicuramente arrivo addirittura quasi a metterlo davanti agli altri che ho detto, probabilmente spicca perché è un cinema più classico, sembra davvero di stare negli anni in cui è girato, cioè si respira da tutto, dai costumi, dai vestiti, dalle musiche, dalle macchine, è ricostruito in modo, io lo amo davvero, mi fermo perché mi ripeto troppo. E poi qui ero combattuto, volevo metterci Take Shelter, volevo metterci Killer Joe, volevo metterci un italiano, ho messo Diaz nel premio speciale, però alla fine ho dovuto metterci uno straniero, perché noi italiani, anche quando facciamo bene come quest'anno, siamo sempre un tantino indietro, e allora ho messo Bad Time, in originale Mientras Duermes, che è uscito al cinema alla fine. È un thriller come non se ne vedono da una vita, forse non se ne vedono mai, cattiveria allo stato puro, un altro film a cui probabilmente non avrebbe pensato uno, lo fa un mestierante come Balagueró e nessuno appunto ci crede più tanto, i registi così che poi magari si vendono un po', invece forse è una cosa più personale o magari no, però tira fuori questa bomba, è un divertentissimo e terribile, un attore fantastico, una storia che lascia davvero con la bocca spalancata, perché quando porti proprio la cattiveria nel cinema spesso è posticcia, è melodrammatica, è finta, qui è finta perché è sproporzionata, ma è cinema, è davvero cinema all'ennesima potenza, un thriller che anche questo penso andrebbe inserito in qualche classifica di quelli da ricordare assolutamente, soprattutto da ricordare a Balagueró per dirgli guarda cosa hai fatto una volta, quindi datti una sveglia e prova a riprovarci, insomma, e basta. Allora, partiamo dal film in comune con Intrinsia, ma credo che anche il Monco l'abbia inserito nella top 5, ovvero Holy Motors di Carax. E niente, alla fine ha detto tutto intrinseco, ma abbiamo detto tutto anche per le altre nomination, a me ricorreva un paio di volte. Hai nominato Tree of Life, effettivamente se avesse avuto una distribuzione più capillare forse molta più gente ne avrebbe beneficiato e molti si sarebbero resi conto che questo è uno di quei film che, come Tree of Life, come ho detto nella recensione, alza l'asticella, ecco, è uno di quei film che porta l'arte cinematografica su un livello più alto, è cinema puro, metacinema, c'è tutto veramente in questo film. E io insisto, quel finale con le limousine che è meraviglioso. E quindi, prima candidatura, Holy Motors, più in basso ci sono tutti gli altri. Allora, ci sono due film italiani, li dico insieme, Reality e Cesare deve morire dei Taviani. Film collegati, diciamo, anche per il fatto che Aniello Arena è uno di quei, non so se è ancora detenuto lui. Sì. Sì, infatti leggevo oggi in un articolo che la sua carriera cinematografica dipende più dai magistrati che gli concedono o meno i permessi per partecipare alla produzione di un film piuttosto che dai produttori stessi. Fatto sta che insomma sono legati da questo fil rouge, ovvero dal fatto che gli attori principali, l'attore principale è un prigioniero, un carcerato, stessa cosa avviene anche in Cesare Deve Morire, dove tutto il cast è composto da carcerati, ci sono anche ergastolani. Dico io, se c'è il problema delle carceri in Italia, risolviamolo così, facciamogli fare dei film, visto che sono bravissimi questi ragazzi. In Cesare Deve Morire mettono in scena il Cesare di Shakespeare in una maniera eccezionale, veramente un'intensità pazzesca. Nella puntata di Disperso abbiamo parlato di un altro film che ha portato al cinema un'opera di Shakespeare, ovvero Coriolanus, e Coriolanus sembra una pisciatina in confronto a Cesare Deve Morire, nonostante abbia mezzi produttivi a disposizione decisamente più consistenti. Ricordiamo che un film come Coriolanus è costato 10 milioni, Cesare Deve Morire quanto sarà costato? No. Meno di €1 milioni, insomma. Ma in Coriolanus, aspetta, c'era Sean Bean? Non sbaglio. No, non c'era. Ah, no. No, c'era Gerald Butler. Ah, ecco, un ex ergastolano anche lui, ok. Vedi? Tutti ergastolani. E... No, che hai detto? Un ex ergastolano? Che stai dicendo? Una battuta. Ah, Ralph Fiennes invece è davvero stato in carcere. Sì? No. Lui c'è. Anche Shakespeare è stato in carcere. Anche Jessica lui forse Chastain. Sì, non ne sappiamo molto, può essere. Pure Jessica Chastain, dai. È vero, era anche lì che tosta. Vedi, vedi? E niente, quindi di reality alla fine ho detto molto per quanto riguarda la regia, è comunque un film che ne avete parlato pure voi, ne abbiamo parlato anche nella recensione, è un film notevolissimo, secondo me è il miglior film italiano. Più in basso, poco più in basso, c'è Cesare Deve Morire. Sorprende che comunque un progetto così interessante provenga comunque da due anzianotti, insomma, perché i fratelli Taviani insieme fanno quasi 170 anni, insomma, ad avercene di anziani così, cioè Dario Argento che ha 20 anni di meno, no, quanti ce n'ha? Quanti anni ha Argento? 70. 10 anni di meno, insomma, eppure fa già merda, mentre invece ecco, loro due dimostrano una freschezza di idee e di messa in scena veramente notevolissima. Sì, infatti, volevo ribadire, no, purtroppo non sono riuscito a infilarceli, però ecco, magari noi non siamo carenti dal punto di vista del coraggio, però ecco, io credo che Cesare Deve Morire ci vada vicino allo sperimentalismo di altri film, davvero sembra una cosa banale, no? Bianco e nero, detenuti, però il montaggio, le cose, mettere insieme certe cose, colore bianco e nero, davvero non è un film semplice come sembra. E poi appunto il fatto che venga da due... insomma uomini d'altri tempi è emblematico, vuol dire che insomma per avere coraggio dobbiamo addirittura andare a rivolgerci ai vecchiacci, per così dire. È notevole come film. Poi insomma in comune reality e Cesare Deve Morire hanno sia il fatto che sono stati distribuiti malissimo, ma soprattutto che hanno avuto campagne marketing veramente scellerate, perché uno ha trionfato a Cannes e ovviamente i distributori hanno pensato bene di non sfruttare l'onda dell'entusiasmo derivato da questa vittoria. Stessa cosa è successa anche per il film di Taviani, nonostante avesse vinto l'Orso d'Oro, sì. A Berlino, cioè alla fine è pubblicità gratuita. Sono film che bene o male attecchiranno presso lo stesso pubblico di nicchia, però magari quel pubblico di nicchia può anche dimenticarsene di certi film. Sfruttare la pubblicità gratuita che deriva dalla vittoria a un festival forse è uno dei principi fondamentali del marketing cinematografico. Evidentemente questi distributori la sanno più lunga di noi. Fatto sta che Reality e Cesare Deve Morire hanno fallito miseramente. Reality però almeno ai multisala ci è arrivato. Poi sì. Ma ci è arrivato, ma è stato un fallimento clamoroso. Ma nel senso, volevo arrivare a dire che quello ce lo fanno arrivare, perché comunque Reality è una storia che puoi vendere, ecco, nonostante tutto, anche perché si riferisce a un fenomeno di costume. Ma Cesare Deve Morire nei multisala, quando lo vedi, cioè chi lo va a vedere, un film in bianco e nero con i detenuti, una cosa Shakespeare, questa forma così atipica non l'avrebbero venduto mai, cioè io da produttore magari sì, con l'animo avrei detto sì, però con la mente avrei detto no, figurati. Anche cavalcando l'onda del premio, io credo che non l'avresti venduto questo film, è troppo... Pensavo un po' difficile. Sì, sì, non siamo, cioè, c'è un pubblico che non risponde, poi ce n'è una piccola parte che invece avrebbe capito, ma piccola. Passo quindi alla quarta candidatura, e qui il Bonco mi odierà, mi riferisco a Paradiso Amaro di Alexander Payne. E niente, ho già detto qualcosa per la sceneggiatura. E secondo me il premio a questo film è il premio un po' alla semplicità, perché Payne prende l'idea appunto delle Hawaii, che normalmente la associamo a vacanze, felicità e quant'altro, e vi ambienta una storia invece di tristezza, di tradimenti, di demolizione del sogno americano, il sogno hawaiano, insomma quello che volete voi. Fatto sta che è una storia popolata da personaggi veri, è un film che a me è piaciuto veramente tantissimo, cioè ci sono le Hawaii che sono un vero e proprio protagonista, non l'avrei mai detto, ma è anche stupito perché insomma Alexander Payne non è che io ne vada matto, anzi Sideways l'ho veramente odiato. E invece, oh, finalmente si è andato questo rumore di sottofondo che non capivo da dove provenisse. Comunque, tornando a Paradiso Amaro, l'ho rivisto anche di recente. Grande prova di Clooney, ma anche del cast di bambini. C'è il tizio, il maschio, che è veramente odioso, squisitamente odioso. Sì, non mi ricordo nemmeno il nome, Seth mi pare si chiamasse. Il personaggio, poi l'attore sinceramente nemmeno lo ricordo. E quinta nomination invece per Un sapore di ruggine e ossa, anche qui detto molto per quando l'ho nominato per la regia, grande cinema di corpi che si scontrano, di due realtà opposte che si conoscono, si amano, vengono incontro l'una con l'altra. Una bella storia, un gran bel film francese, al solito i francesi fanno ottimo cinema, in questo caso nella mia top 5 ce ne sono ben due, e niente, quindi questa è la mia top 5. Ci sono andati vicini anche film come La Talpa, che appunto è stato nominato da Intrinseco, volevo inserirlo, poi alla fine ho preferito inserire questo. Ci è andato vicinissimo Moonrise Kingdom e Diaz. Insomma, è stato un anno abbastanza difficile scegliere, talmente bello che è stato abbastanza difficile sceglierne solo 5, ecco. E vabbè, niente, io concludo qua, vai Monco. Come agli Oscar si è fatta una certa, siamo arrivati proprio... Tanto perché questa puntata doveva durare poco. 36 minuti, quant'è? Siamo a 37, non so. Siamo a 2 ore per la seconda parte. Oh, vabbè. Per la prima un'ora. Saltiamo una settimana, quindi se la fanno bastare per due settimane, dai. Allora, sì, anch'io alla fine l'ho lasciato fuori, però prima dico quelli che ho lasciato fuori. Ruggine e ossa anch'io. E ora dove andiamo, che però l'ho premiato col premio personale, poi ho lasciato fuori Reality, che avrei voluto mettere, almeno per mettere un italiano, però ho lasciato fuori La Sorgente dell'Amore di Mihail Leano, C'era una volta in Anatolia, e poi questo non l'ho messo perché vabbè, non è uscito in Italia, è Quel Couleur de Printemps, quello che abbiamo visto io intrinseco a Locarno, che era molto bello. Invece quelli che ho messo, io Moonrise Kingdom l'ho messo perché ne vado proprio pazzo, ma cos'è, mi ripeto per la terza volta, tra musiche, regia, attori, è bellissimo. Per me, magari esagero, ma è il mio film dell'anno. Poi ho messo due film che vanno a braccetto, perché non sono i due vincitori dei principali festival, quindi Pietà di Kim Ki-duk e Amour di Haneke. Per Amour non mi ripeto le cose che ho detto soprattutto sulla regia. Pietà invece è un premio che voglio dare a Kim Ki-duk perché è il suo grande ritorno. Dopo Arirang, dopo tutti i problemi che ha avuto, è tornato e ha fatto un Kim Ki-duk, e un bellissimo Kim Ki-duk. In più è stato aiutato da due formidabili attori, una storia... che non posso dire il tipo di storia perché è spoiler, però è bellissima e molto... E anche perché quando l'hai detta durante la puntata ti sei incartato 6-7 volte. Ecco, sì. Comunque è molto asiatica come storia, magari chi se ne intende avrà già capito che tipo di storia è. Comunque grezzo, duro, senza pietà ed è bellissimo. Poi, a proposito dei settantenni, lo volevo mettere da qualche parte, alla fine l'ho messo qui, un altro super settantenne che dà paga a Dario Argento è Ken Loach, che con il suo Angel's Share, non mi ricordo in italiano cos'era, La parte degli anni. La parte degli angeli. Che è uscito anche in Italia, non chiedetemi come sia, perché io l'ho visto in inglese, e anzi in scozzese, perché... Insomma, è un film che quando parlano in quella lingua devi sentirlo in originale. Il doppiaggio in italiano sarà buono quanto volete, ma è assolutamente da sentire in italiano. È una delle commedie più belle dell'anno, anche se, come al solito, lo stile di Loach, il film sui proletari. Quindi sì, si ride perché sono tutti dei... siamo dei poveracci, insomma. Però c'è anche un lato più serio, fare il film sociale. E bah, ogni volta mi innamoro dei film di Ken Loach. Magari non è a livello di un Holy Motors o di un Cosmopolis, però l'ho voluto mettere perché davvero non riuscivo a metterlo da nessuna parte. E concludo con un mio amore, che è sto pollo alle prugne, che è di, un attimo, non l'ho scritto, che è di Marjan Satrapi e Vincent Paronneau, gli stessi autori di Persepolis. Infatti anche qui c'è una piccolissima parte cartoon. È un film francese, cioè franco-iraniano, ma alla fine è un film francese perché tutti gli attori, bene o male, sono francesi. C'è Amalric, c'è la Rossellini, anche se è italiana, c'è Jamel Debbouze, che era in Amélie, c'è Maria de Medeiros, che ve la ricorderete forse vagamente in Pulp Fiction. L'ho definito il concerto 2.0 perché è molto in comune, è un mix di commedia, una storia d'amore, c'è una poesia nel finale, gli ultimi 20 minuti sono pura poesia, bellissimi, c'è i violini di cui ho parlato prima che fanno una colonna sonora meravigliosa, c'è il ricordo, vabbè, non dico altro, si piange anche perché... è molto toccante e si ride anche tantissimo nella prima parte perché il figlio del protagonista è un discolo, come si dice. E poi un sceneggiatore bellissimo, è la storia di questo, vabbè, dico velocissimamente, questo violinista che un giorno torna a casa, no, litiga con la moglie e la moglie gli spacca il suo violino che lui ama tantissimo. Vabbè, lo va a cambiare? No, è così importante per lui che decide di morire. Nei prossimi 7 giorni lui ha deciso di morire, non mangerà più, non farà più niente, basta, quel violino gli ha tolto la gioia di vivere. E tramite i flashback ogni giorno una parte del suo passato si scopre perché quel violino è così importante. Bellissimo, io mi sono innamorato del concerto, questo è un degno tra virgolette successore, quindi questo è il mio quinto. Ok, abbiamo finito. Quindi mi riprendo lo scettro della produzione. Questa puntata sarà difficile da editare. Non editarla. Ma come no? Abbiamo spezzettato, abbiamo detto cose fuori onda. No, è necessario un editing. Comunque, vabbè, ovviamente adesso noi faremo un lavoro di scrematura, quindi sulle pagine del blog, ma anche sulla pagina di Facebook troverete poi, elaboreremo insomma un modo per farvi votare quelle che per voi sono i migliori film, la migliore sceneggiatura, tutto il resto, per ogni categoria faremo una sorta di sondaggio. Poi ovviamente non vi faremo sapere i risultati e poi in puntata, insomma, nella prossima puntata vi diremo i risultati. E non lo so, se non, visto che si è fatta una certa, direi di concludere qui. Vi salutiamo, fatevi bastare questa puntata per un paio di settimane, dato che penso la prossima ormai la fissiamo per il 22 gennaio, credo. E dai. Perché dopo il 17 che usciranno, il martedì che, dopo il 17 che uscirà il mondo, insomma. Okay. Quindi ragazzi, vi salutiamo, insultiamo ancora Dan Warlock che continua a dimostrarsi un imbecille. tutti ormai proprio, tanto non ci ascolta, quindi, vabbè, e comunque piace ai nostri fan, piace quindi dai, insultiamo la gente, che ci frega. No, piace quando insultiamo lui in particolare, la prima volta c'è stato proprio apprezzamenti. Ma c'è, infatti, tutte quelle testimonianze di amore eterno non me le aspettavo. E immagino che facessero tutto riferimento a quel momento del podcast. Quindi. Allora, signori, vi salutiamo. Ci sentiamo nella prossima puntata. Salutate anche voi, ragazzi. E vi lascio uscire a Scanio. Ciao. Okay. Ciao, buon anno. Buon anno, tanti auguri passati. E andate al cinema. Grazie.